Dio, la cosa spaventa forse. Ba, ba, No, ba, ba, ba, ba, ba. ecco, quindi Questa è quando la gira la cassa sigla no. che Catabriga Ci giochiamo a cazzo di cane, raga. mi ha mandato Come Carlo Cambrighino. sempre. No, non è vero, non è vero, non è questa la sigla. Benvenuti, bentornati, ben Benvenuti. saputi, ben Sì, congiunti. è molto simile la sigla di oggi. Vabbè, adesso sentiamo. Chi siamo? Icons and Dragons e RipGDR. Tornati in diretta per RipGDR. voi al mutare della tempesta, all'inizio della fase 2. Siamo di nuovo qua con la maledizione di Katta, episodio 48. Giochiamo sempre a Dungeons and Dragons, non saliamo di livello come sempre, quindi non vi preoccupate, fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, non cambia assolutamente niente. 101, sì. Esatto, fase 1, fase 2, livello 1, livello 2. Sì, No, sempre livello 1, tranquilli. No, non è vero, non è vero, neanche questo è del tutto vero. Però non mi ricordo più a che livello siamo, perché è stato talmente tanto tempo fa. Qui dice l'8, alto, sarà vero? altissimo. Sarà vero? Ma la cosa brutta della maledizione di Katta è che noi sappiamo anche che possiamo salire solo di un altro livello. E vabbè, È ma vero, ci questo. manca solo il livello. Sì, Sì. cioè è proprio una cosa infernale. Cioè, In tipo, noi realtà due. sappiamo che non saliremo, ma comunque anche dovessimo salire, cioè comunque saliamo di un livello, ma basta. In realtà due, Vez. No, sta zitto, scemo. Non, Arriviamo, non, di, eh no, non, di, arriviamo al no, ma decimo. non dirlo neanche tu. Non dirlo. Arci mi dà ragione, arriveremo al decimo Allora, se volessi livello. sfruttare quel livello 10, Ragione dovessi scemo. sorbirti un'altra campagna di Katta su questa solfa. Con E solo no, non descrizione. lo faremo. Cioè, mi dispiace. Cioè, io voglio bene a Katta. Spero che faccia il master in altri giochi, Sei un in altre pippo. Io campagne. invece no. Però no, non lo faremo. Assolutamente Io non lo non voglio faremo. bene a carta. Comunque. Si potete sempre seguire sui nostri canali social di Tycoons and Dragons e RipGDR. RipGDR. Oggi siamo organico leggermente ridotto. Insieme a me, Andrea Giacomo Vecchi, abbiamo Una Francesco coca te? Ah, Arcidiacono e no. una Coca Zero esse. Stefano No, ci fa diventare. Gamberoni, Enrico Cattabriga, nostro master crudele, maledetto, Giulio Bosi e Marco Bosi, mentre salutiamo Edoardo Saladini che, se ho capito bene, non sarà con noi, ma chi lo sa, magari a sorpresa spunterà, probabilmente comunque, In assolutamente, mezzo questo comunque non avverrà. con un camice bianco e i capelli la da scusa di sala del disattivare. laboratorio ai turni per paccare quando vuole, come vuole, senza problemi, è bellissimo. Chiaro, ma in effetti lui ci ha dovuto un po' studiare per questa cosa, perché in effetti ultimamente c'era sempre. E quindi sì, no, non è vero. Probabilmente è anche vero che fa un turno improbabile. E tutto a Lo posto. salutiamo. Lo salutiamo Finisce alle 10. sicuramente. Non è improbabile che ci raggiungi. No, ma Non lo so. inizialmente aveva Però detto. il turno dalle 2 alle 10 Attenzione. forse è quello che sceglierei anch'io, cioè tra gli No, altri. salve. Che No, vabbè, questa è la sorpresa vera. Benvenuto Luca Lazzarini. Non so se lo tensione. vedremo, però Oh. clamoroso. Perché non si vede? Eccolo, Lazzaro Luchino, Lazzaro Luchini. eccolo. Oh. No, Donna. sbagliato. Giusto, va bene, sì. Questa Non è sì, visto, non non vede vede cosa cosa sta facendo Katta. Voglio Nessuno vedere vede cosa cosa sta scarica. facendo. Ho detto Che ha anche. bisogno di cure? Sì, Katta ha messo la mappina, ha fatto tutte delle cose carine che ignoreremo per tutta la serata, Esatto, io ho quindi. messo l'asin prima, l'ho messo in sovraimpressione, no, non in sovraimpressione, in primo piano. Scusate, è arrivato. Mi dici i punti ferita? Che è arrivato il chierico. 11. 11. Rega, Ma approfittiamo. l'as quindi poi adesso fa parte dei cattivi, se ho capito bene. Ah sì? Beh, come sempre. Eh no, in realtà esatto, è da definire cattivi, Sì, perché a è un questo po' punto non vero, so chi. un po' è vero anche questo. Allora, direi di provare a far partire la sigla, se riesco. Ah, quindi sono arrivato in tempo nonostante tutto. Assolutamente. Beh, non è che non siamo poi così in ritardo, neanche noi, anzi, siamo moderatamente puntuali. No, è stato bello che io oggi ho scritto 21 come punto di domanda e tu ti fare. Poi 21 e 15, poi alla fine. Ma va bene. Beh, Io mi 21:30 sono. era l'orario. Siamo andati ai 36. Va bene, dai. Quanto Io mi sono sgodevole, svegliato Giulio. 2 ore fa. Sì, beh, Quindi. io un po' puntiglioso, Oggi è diventato. stata una bellissima Mi giornata. sto esercitando per essere sempre più sgodevole. Viene bene, Giulio. Questa è la Vero? sigla che ha Ah, messo sei, Katta. migliori molto. Guarda che dopo 2 mesi non è facile tornare a certi standard. Ci organizziamo giù per beccarci a Villa Ghigia. È strano anche vedere Arci che prende appunti. No, non raga, sto facendo una scheda per un paziente. Non credo che Arci prenda appunti. Andiamo a fare un attimo di silenzio e cercare di capire cosa stiamo ascoltando. Ve l'ho linkata anche in chat. Oh mio Dio, ma scena. Sembra che abbia detto. Indovina con una. Va bene, qualcuno fa il riassunto? Ah, io no. Beh, niente. Vai, io non c'ero. Niente, eravamo dalla strega, siamo andati dal recinto delle capre, abbiamo liberato le capre e abbiamo ucciso prima prima abbiamo sconfitto uno spaventato. Abbiamo ucciso degli insetti e adesso dovremo affrontare una cosa molto grossa che si sta avanzando contro di noi, che non sappiamo cos'è. Il mio cazzo, ok. Non lo so, può essere. Tanta briga. Che si è scomparso? Sceo, ho avuto paura del cazzo di catta, credo. Ha ragione. Va bene. Catta, ti ho messo in primo piano e hai tolto la mappa, ok. Adesso ne metto un'altra adesso. Ah, perché quella non era la nostra mappa, era di un altro gruppo, ci tradisci con un altro gruppo di... Era la vostra, di... no, non ho visto. Il gruppo degli amici veri. Ah. No, quello ce l'ha Arci. Oggi anch'io ho la tenuta. Quella era lo zoom, adesso vi vedete. Bretz. Ah no, Barretts. Bretz. Come sei adesso, giallo. Genitore 1, genitore 2. Ma quindi cosa hai da fare? Finta di lavorare, pazzesco. Cosa avevi da fare l'altra sera? Madonna, Rigo. Ti abbiamo scritto. Come? No, non ho letto allora. Cosa aveva da fare? Doveva rubare. Ma quella è la scheda per tua nonna, quindi Arci. Guarda che cambia discorso. Aspetta, Pez, raccontami i dettagli com'è andata. Esatto, perché non si fa in chat, si fa in diretta su Facebook. No, io sono abbastanza riservato. In quei 2 minuti, racconta tutto. Va bene. Non cado in facile provocazione. Ma cioè, però sì. Abbiamo scopato 6 ore. Esatto, non sono Ema, quindi non ho bisogno. Salutiamo Ema. Che tra l'altro faccio notare che quando è stato il compleanno di Sceo, io questo coso però posso sassarlo. Ok. Grazie. Era bello sentirti parlare con la musichetta. No, esatto, perché però cominciava a diventare anche un po' credibilità. Esatto. Dovrei tenere la bottiglia di birra davanti alla luce, perché così fa tutto più naturale. Sono Andrea Giacomo Vecchi, riesco a scopare anche mantenendo il metro di distanza e... ma non voglio che mi dica niente questa cosa. Quello no. Ma no, riesco a tenere il distanziamento. Quello che volevo dire invece di farmi arrestare in diretta era che sostanzialmente. Ma mica dei reati? Non lo so. Dall'età della congiunta. No. Comunque una sanzione amministrativa al massimo. Vabbè. Invece di farmi non ho mai pagato per scopare, okay. No, scopo 8 donne alla volta, non è assembramento perché riesco comunque a tenere un metro da tutti. Allora, no, quello che volevo dire adesso invece di dire queste puttanate era che Ema, l'altra che noi salutiamo indubbiamente, al compleanno di Sceo aveva fatto il bullo più volte, per la verità. Intanto no, dicendo che non è da lui. Intanto dicendo che non abbiamo follower, che è vero, però comunque non è carino che ce lo si dica. Non abbiamo 107. Vabbè, però nessuno effettivamente, quasi nessuno purtroppo segue. No, qualcuno hanno sbagliato a mettere il like, Giulio, su. Non andare però, a mettere tutto. A differenza di Luca Lazzarini che non ha fatto questo errore. Esatto. Ma tu hai visto l'evento o da qualche parte, no? Non avete avuto tipo su Facebook? Io l'evento l'ho visto. Io l'ho visto sulla pagina come notifica. Pagina. Bella questa ricerca di mercato di Discord. Ma come ha saputo del nostro marchio? No, ero curioso per capire se devo per forza invitarvi o voi comunque vedete che c'è un evento della pagina. Vabbè, no. Di questo parleremo dopo. Comunque, quello che volevo dire è che, a parte questo, Ema si era anche accordato con Fabbro per dire: beh, domani andiamo a scrivergli in diretta. E Fabbro effettivamente l'ha fatto, ma Ema non si è visto, quindi bella. Salutiamo anche Fabbro che non ci segue, però è stato carino a scriverci. Tra l'altro, quei 10 secondi che è stato, dove ha scritto 4 puttanate, noi magari stavamo giocando e non l'abbiamo beccato. Comunque, abbiamo fatto un riassunto adeguato. Abbiamo Laz che è con noi e ci può dare. Supervisionerà. Esatto, può supervisionare e niente. Perché non si annoierà. Parola K e alla sua mappa. Una caraffa di alcolici con cui. Non hai preparato la tua solita caraffa di qualcosa? No, stasera ho bevuto solo un drink. Come mai? Laz, buona bene. Buona bere, vabbè, è tipo un pesce, non è che gli togli l'acqua, per dire, cioè per non tenermi. Arci, se vuoi risparmiare tempo, fai fare all'AS la scheda per tuo nome. Esatto. Gio ha deciso di scioperare per protesta. Gio sta guardando Star Wars. Bravo. Wow, chi è che esplosa? Ottima idea. Scio. Allora, ritorniamo a noi. Vai. Eravamo andati al giardino delle capre, come avete giustamente ricordato, e lo avevate abbattuto, provocando il terremoto. No, non il terremoto. L'ira della strega. Esatto. Perché tutti i peschi che erano piantati contro le sassonate del recinto si sono messi a fare una sirena, un rumore di allarme. E avete visto questo teschio volante gigantesco dentro la quale gigantesco bravo, dentro la quale sedeva una persona, e questa ha cominciato praticamente a mandarvi addosso degli sciami di insetti che hanno cominciato a rosicchiare la vostra pelle. Voi, per diciamo trovare un riparo, vi siete lanciati tra queste rovine, che sono le rovine della vecchia magione, praticamente una gigantesca residenza, quello era un palazzo, dove verso nord c'erano una volta gli alloggi, le stanze, e sud c'è invece quello che era una volta un giardino, che adesso è completamente occupato da vegetazione rigogliosa e infestante. E quindi qui, dopo aver smadonnato un po' con Discord, adesso non ti sentiamo, però smadonna, perché mi sta, credo che sia sull'altro server che stia. Qual è il problema? Qualità, che qualità, catta, qualità. Ma qual è il problema, vuoi ingrandire? Mi sentite? Sì. Sì. Ah, ok, pensavo non mi sentiste più. No, eravamo addormentati, ma questo è un altro discorso. Questo è normale quando c'è la descrizione, però no, è stata una descrizione abbastanza sobria. No, sobria, giusto. Ah, ecco, volevo condividere. Ah, adesso sì che capiamo tutto. Tu sei nell'arancione. Giulio è nell'arancione. Due descrizioni dopo cena. Eccola. E pazienza. Allora, come potete vedere, ho fatto appena in tempo a caricare questo. Ah, quello grande mappa. È la mia alce, giusto? Quello grande è l'orso. Ah. No, è quella al centro, la tua. Ah, sei già. No, l'orso è arci. Ma però l'orso sono io. L'orso sei tu. Gli altri purtroppo. È porco. La tua alce sarà il veteran. No, ha detto orso, non porco. Io sono il veterano o la lucertola gigante? La lucertola gigante è Giant Lizard. Ho preso veteran. Come il veteran. Che ho trovato. Priest sarò io, immagino. Come volete. Ah no, si può scegliere. Sì, ho preso i primi che ho trovato perché non ho avuto il tempo di farveli personalizzati. Ah, cos'è che hai fatto? Non hai niente da fare. Che bel master che prepara le sessioni. Scusa, perché c'è anche Race in teoria tra questi. Allora, Brown Beer è per forza Arci. Io prenderò il veteran. Giulio è il veteran, io sarò il priest. Fai il priest. Il che, scusa? Il price. Il price. Premium price. Non so che cazzo ci scrive. Ah, adesso Noble, cioè Noble potrebbe essere Sheo, nobile di spirito. È proprio Noble. Sì. Sì, vabbè, perché l'altro, sei... l'altro è per forza... No, allora Marco. Secondo me... Vabbè, se no sei tu il nobile, visto che sei di fianco all'altro. Nobel. Se vuole già piazzarli in questo modo... Ma Arce è Brown Bear. Sì. Sì. Marco sarà Giant Lizard. Ah no, forse no, quello è il nemico. Marco è il comune. È la tua alce. La tua alce è una gigantesca lucerta. Allora io devo essere il Nobel, però. Va bene. Sì, che sei di fianco all'altro, va bene. Allora io faccio. Quindi Sheo è il primo. Bene, mi rivolgo al barbaro, curami barbaro. L'alternativa è che io sia il veteran e tu sia il Nobel, Giulio. Potete spostarvi tranquillamente. Vabbè, ma si possono spostare. Vabbè, guarda, fai il veteran, fai spostare. Spostami l'alce, spostami il Giant Lizard. Vabbè, ma tanto dura un turno la mia alce, perché catta la focus subito, come piace ad Arce. Sì, e tra l'altro tipo... Perché la mia alce è femmina? Ha tipo i due punti ferita. Dici che è il mio alce, forse? Sì, certo. Catta puoi rinominarli, immagino. Sì. Non dice la mio leone. La mia alce. Se è femmina è la mia alce. Se è femmina, non sì. Non so se è al maschile e femminile. Vezza così in calore che anche il suo famiglio su D&D. In teoria è un maschio, perché si chiama Aderov. Aderov dovrebbe essere un maschio. Dovrebbe essere Dipende dal paese. Se no sarebbe Aderova. Che è la sua tipa? No, in teoria si chiama Adenov per... Adenova? È russa? No, è Adenov, il nome del mio alce, in onore del personaggio di Sheo che è morto. Uno dei tanti. Quale dei? Vabbè, uno. Era Adenov, che poi in realtà era Adenov. Io l'ho richiamato Adenov. Sì, sì. Pensavo Adenov. No, Adenov. Sono sempre scritto male, ok, corretto. E no, il russo, perché qua sono tutti russeggianti un po' dell'est. O... Slavi, sì. Esatto. Quindi il nobile chi è? Ma sono diventato Bardistra. È uguale, posso mettergli il nome? Il barbaro. Prega, non il nobile è il barbaro. Vediamo se scrive il nome di Giulio giusto. Glielo correggo sempre io. Perché lui lo pronuncia senza l'H. Pazzesco! L'H è muta, scusami. No, ha ragione Giulio, la tua pronuncia del tuo nome non è molto buona, però vabbè, insomma, si può avere tutto. No, l'H è muta. Oh, che bello. Sfortuna. Yeah. Posizionatevi dove volete. Sposti tu. Aspetta, da dove arriva i nemici? Dove arriva? Esatto. Allora, l'ingresso il recinto delle capre era qua, quindi voi siete scappati da su verso giù. Perdonami, Catta, io non ho visto cosa intendi per qua. Marco, scusa, il tuo amico come pronunciava il suo nome? Angolo destro? Sì, angolo in alto. Voi siete arrivati dall'alto. Ce ne sono due. Ah, ok, dall'alto, ok, va bene. Atanas, ma in realtà vedi l'H è muta, senza H. I rumori che sentite di qualcosa di grosso che si avvicina vengono da qua alla vostra sinistra. Ok, cioè, quindi io sono davanti. Vabbè, ci può anche come stare. Abbiamo qualche istante per posizionarci. Diciamo, sì, per sì, potete mettervi dove volete. Io vi ho piazzati qua a caso. Vabbè, io con l'orso mi metto abbastanza in posizione di. Davanti, sì, mettiti davanti, esatto. Secondo me possiamo sfruttare il corridoio, subito dietro mi ci metto io. Ma ha un piano superiore sta cosa? O è tutto crollato? Allora, la struttura è molto molto grande, ho visto che sono tipo 300... No, però, esatto, se possiamo piazzarci, rega, evitiamo di fare la colonna. Quanti HP mi hai messo, infame? Quelli non contano, tranquillo, sono quelli preimpostati, altrimenti sfortuna ne avrebbe 4. Vabbè, mi sembra di strano. Io ne ho 4. Se ci se ci spostiamo da lì o ci incastriamo nelle stanzine piccole oppure ci ritroviamo no, aspetta, se ci dici Katta che qua tipo è la cosa che tipo non possiamo più passare, dobbiamo vedere morire uno per volta incastrati, tipo aiuto. Come funziona, lo evitiamo, ci mettiamo tutti all'ingresso e aspettiamo quello che arriva. Katta, sta arrivando dall'alto a sinistra la sta cosa. Esatto, sta arrivando da sì. Wow. Sto arrivando di fronte a me. Ero l'impazziato, va bene. Ok. Arrivo da lì, esatto. Okay. Arrivando da qua. Ci dici velocemente come funzionano gli spostamenti e gli attacchi in quadretti nemici e cose così, per essere chiari prima. E non attraverso i quadretti nemici non si può passare. Amici. Amici non ci si può fermare. Allora, in realtà te lo posso dire io come si fa. Prima stanza. Allora, se sei amici, praticamente tu occupi il quintuplo dello spazio normale e ingombri e non si può passare. Se invece sei uno dei nemici, praticamente tu puoi sovrapporti anche attraversare i muri in tutte le modalità possibili, sì. Al 15 alla volta. Se possiamo muoverci, uno avanza, colpisce e torna indietro, giusto? Ma va là, mettiamoci a semicerchio davanti, così siamo tutti pronti a colpire. Io mi metto qui, esatto, esattamente lì, bravo. Ma no, scusami. No. Aspetta, rega, se noi ci mettiamo, come state già pensando voi, cioè lì dalle porte, però in modo che lui sia in mezzo, cioè, come posso spiegare? Quello è il fatto, che lui si fermi in mezzo alle porte, noi siamo sia dalle porte che da dietro, lo circondiamo in quel modo. Cioè, se arriva proprio da sinistra, mettiamoci in uno stanzone grande, magari sfortuna dietro. Ah, dici di fargli una sorta di non di agguato, però almeno no, beh, così evitiamo di ostacolarci a vicenda. Però in questo modo attacca solo Arci e me. No, prima. Così infatti non va bene. Cioè, se ci potessimo mettere più avanti. Hai capito. Avanti. In questo modo, come siamo nel corridoio, può attaccare, può essere colpito solo Arci. Non è meglio se attacca solo me. Esatto. Invece non è meglio se vediamo prima cos'è. Tipo. Però il rischio è che rimaniamo bloccati, capito? Che cosa che è già successo? Ma non rimani bloccato, al massimo corri indietro. Tu ti puoi muovere, quindi se una cosa molto grossa sfonderà il muro, altrimenti entrerà e vediamo cos'è. Sì, ma se sappiamo già che entra nello stanzone grande, mettiamoci lì a semicerchio, questo dico io. Però colpisce tutti così. Vabbè, tanto siamo tutti della gente da corpo a corpo, a parte sfortuna. Che sfortuna, cioè, nel senso, se io sto dietro con l'alce, a che servo? Ma si può muovere, tu ti puoi muovere, quindi tu vai nel quadretto di arte, però già tipo a me mi rende, in questo modo mi rende già impossibile tipo la carica, per esempio un quadretto quanto è? Anche a me, anche a te, per normale, esempio, per evitare sta roba qua. Vabbè, tanto la carica è un turno alla fine. Però così abbiamo la certezza che chi non ha tanti punti ferita evita di beccare botte. Ma chi è che non ha tanti punti ferita? No, in generale, Arci come orso ha uno sproposito di punti ferita. Sì, da ma c'è qualcuno messo male di noi? Giulio? No. Male no. Cioè la tua alce. Sì, la mia alce è ovvio che dura un turno. Punto. Per questo io volevo fare una gloriosa carica. Se invece facciamo così, non nessuno muore. Se non io. La mia alza tipo 3 punti ferita o una roba del genere, quindi fidati. La lasci 2, fidati. Ho capito. Ascolta un attimo. Ma non è vero, perché se allora, vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io mi prendo l'attacco di opportunità, dopo non può più fare altri attacchi di opportunità. Vabbè, come volete, però diciamo che noi sta situazione secondo me l'abbiamo già vista e già ci abbiamo perso una volta così. Cioè non abbiamo perso niente, però abbiamo perso un po' di... Che Katta, mi confermi che io posso attraversare i miei alleati, colpire e tornare indietro? Purché ci sia dello spazio qua, purché ci sia dello spazio di fronte all'orso. Ah, cioè io non posso attaccare mentre sono nelle se zone... Se tu vuoi, certo. Cioè se Arci sta davanti, fa da tappo. Quindi noi possiamo colpire da dietro, i primi tipo possono tirare da dietro. Già tipo per esempio Sfortuna, allora se sta super dietro non riesce neanche a sparare Eldritch Blast, per dire. No, allora hai ragione tu. È per quello che dico. Se noi bisogna ricordarsi, dopo che lui attacca, fare così, prendersi l'attacco d'opportunità, però a quel punto tu puoi fare così, quindi, e tornare indietro. E quindi ci pigliamo un bordello di danni, però, perché dobbiamo prenderci così tanti attacchi di opportunità? Cioè, ha solo uno, lo fa solo a darci. Vabbè, ma perché, scusa, che vantaggio c'è nel prenderli? Gli dimostriamo che io posso spaccarlo anche se mi dà il appunto, dico. Però, sì, però se noi... Rega, però giochiamo, non prendiamo. No, lo so, però scusa, Giulio, tu... ma tu Giulio di cosa dici? Pezza, hai fatto una domanda a rispondere. Il vantaggio è che nel turno del nemico solo Arci viene colpito. Dipende cos'è. Va bene. Se ti fa un attacco ad area, sti cazzi. Ci spostiamo. Per quello. Grazie, bravo, infatti io per dire sei un drago, moriamo. No, per dire, io mi sarei messo nella parte giù. Catta, mettimi qua. Sì. Oddio, cos'è? Allora ci spostiamo completamente. Gli altri? Esatto, voglio io voglio stare di fianco a Giulio. Non c'è spazio. Sì che c'è spazio. Sul muro? Vabbè, non ne sono dei due sul muro. Ma da dove entra, scusami, il tizio? Da sopra a sinistra. Da sinistra. In alto da quella sinistra. Specie di... Esatto. E io lì dovrei avere spazio. Quanto è un quadretto, Catta? 5. Vabbè, ma piazzami... Arci, lo metti lì. Arci, metti Sceo dove gli pare e sfortuna dietro Sceo. Aspetta, allora... Se gli va bene. È dietro Arci, scusa. E allora a me mi metti... E io anch'io caricavo, vabbè. Allora mettiti sul lato in alto. Mettiti sul lato in alto. Sì. Sì. Se lui arriva... sì, ma mi arriva in bocca. No. Cioè, appare da lì. Potrebbe andare su... Lì come fai a passare i muri, però? Scusa, ma se metti Arci nell'angolo della stanza, l'angolo sud-est, chiamiamolo, dello stanzone... Esatto. Va bene, sì. No. Tu mettiti davanti e dietro ci metti... Che volevo coprire... Esatto, io lì e sfortuna un po' più indietro dove preferisce, dietro a Vez magari. In un'altra schermata. No, ci serve. No, dietro di voi. Sì, io poi vediamo, magari tipo questo spara una palla di fuoco che ha raggio. Ma perché non giochiamo tutti con Roll 20? Scusami, che se non diventiamo scemi apposta. Bisogna impostare tutto quanto prima, magari una volta ci mettiamo insieme e lo facciamo. L'altro mio master lo fa. Io resto Arci, non gliene fregato un cazzo di nulla fino ci fa anche livellare. Non gliene fregato un cazzo di nulla fino all'altra volta. Adesso esce fuori con queste cose. Posso giocare con voi? Oh, basta che dai, io vi ho fatto livellare la volta scorsa. È vero, anche Giulio. Però Giulio non ci ha detto cosa serviva a livellare. Invece è stato bellissimo quando ti ha detto no, stavolta è così, dalla prossima ho sentito un brividino lungo la schiena, che è stato bellissimo proprio. Sì, cioè, beh, io non avevo neanche capito che si potessero cambiare le sessioni. 20 punti persi così per un'avventura, non di sessione. Che bello, cioè, di volte ma quanto è stato bello. Perché stai mettendo i fantasmi, catta merda? Di voi sentite un lamento. Oddio. Di una persona. È caduto. Che... il telefono in carica. Oh, guarda che arriva il fantasma nel culo dell'alce. Esatto. Ma ti ho detto che l'alce era fondamentale per lui. Dalla nebbia... Io ti avevo detto sfortuna di metterti lì. La nebbia assume le apparenze di una persona. È un uomo molto alto e molto grosso, e il suo aspetto praticamente è mutilato e marcio, rovinato. Praticamente avanza verso di voi con le sue budella che escono dalle ferite che ha sulla pancia. Come Arci adesso, tipo. Allora. Vabbè, finiamo, l'hai già ferito. Nonostante la sua presenza intimidatoria, ha degli occhi molto tristi e vi grida addosso: poverino. Perché invadete la mia casa? Andatevene, lasciatemi poverino. In pace. Vabbè, andiamo, rega, poverino, dai, andiamo. Mi chiamo Minimo Nono Settentrio. Parli? sembra ostile? Sembra disperato, vuole essere lasciato in pace. È tormentato chiaramente, come tutti i fantasmi, ma lui in particolare. Siamo qui per spezzare questo nefasto incantesimo. Aiutaci a sconfiggere la malvagia strega. Ha le sembianze di un arcane trickster. Posso tirare un persuasion? No, è un uomo molto alto e molto grosso. Posso tirare un persuasion? No, perché è un uomo molto alto e molto grosso. Vabbè, dai. In che modo e per che cosa lo vuoi persuadere? Lo voglio persuadere che siamo suoi amici. Cioè, non siamo necessariamente suoi amici, però siamo suoi potenziali alleati. Se ci aiuta a sconfiggere la strega, probabilmente riusciremo a spezzare l'incantesimo che grava su questo luogo e liberarlo finalmente. Ci dovete fare questo? Cioè, io lo credo davvero, poi il me giocatore sa che non sarà mai così. Però il me personaggio ci crede sul serio. Il me giocatore è un po' più esperto. No, ma... il me giocatore l'ha data su, però il me personaggio ha ancora qualche momento ogni tanto in cui dice sì, forse possiamo cambiare le sorti di questo mondo. Un'inspiration per l'ennesimo tentativo. C'è l'inspiration, non la usa mai. Minchia, potrei usarla per convincerlo. Allora, facciamo così, la uso... Se funziona, inspiration. La uso... Indietro. No, la uso se mi dici che può avere un senso usarla, se tu mi dici che non è, può essere... Cioè, non mi far tirare, insomma. Allora... No, che lui si unisca alla battaglia non è plausibile, però è plausibile che si rimanga, come dire, neutrale, che non vi attacchi. Va bene, dai, la uso. Dice, guarda cosa abbiamo portato con noi, sfodero il mio spadone argentato, cercando di farlo in qualche modo brillare, anzi no, lo faccio brillare con la luce del mio spirito guida divino. No, sembrava essere un per un momento brilla, e se funziona, e dico, guarda, la luce degli dei è arrivata in questo luogo oscuro. E tiro, ho tirato due dadi uguali, 12 più 6, 18, dai. Avresti potuto tirarli di colore diverso. È stata totalmente inutile l'inspiration. Okay. Hai fatto mezzo? 18. No, perché ho tirati due dadi uguali. Cioè, tutte e due 12. Usare l'inspiration e tirare uguale è comodo. Sì, ma stai sfoderando una spada d'argento, come cosa. Esatto, che sbrilluccica in un attimo di vita. No, non lo so. Dimmi, Katta. 18. Lui si acchieta e ti dice, purtroppo per me non c'è più nessuna speranza. Da quando è successo quel terribili fatti alla mia povera figlia Marina, purtroppo lo dovevo fare, dovevo impedire che cadesse. È lui che l'ha ammazzata per strada. Ah, il bastardo che ha ammazzato la figlia per non farla andare in sposa a strada, madonna. Uno dei bastardi che ha ammazzato in realtà uno di quelli che ha fatto quello che dovrebbero fare. Purtroppo la mia Marina è morta e non tornerà mai più, quindi per me non può esserci più speranza. E qui tu dirai... E qui io dirò, c'è sempre una speranza. Il malvagio Strad verrà punito per ciò che ti ha fatto fare. Ma una volta che lui dice lei non tornerà mai più, vediamo se ti si accende la luce. C'era la cosa di Kretzk che riappariva? Che cazzo fai, Arci? Devo andare a cliccare sulla mappa, però avevo notato questo piccolo effetto sulla telecamera. Se ti ricordi? No, non mi ricordo. Mi sono incantato. Il fatto che più e più volte ci sia questa storia di qualcuno che uccide la sua figlia, sorella. Ah, sì, cioè quindi è già successa questa cosa. Sembra che abbia un dito di 2 metri. Prova a farlo con qualcos'altro di simile. Quindi vuol dire che è la stessa anima imprigionata. Quindi vuol dire che è Irina. Tu sai che esatto, che è di fatto sua figlia è tornata. Tua figlia è tornata. Me lo dice il master. Aspetta. Un attimo. Sì, mi dicono dalla regia che tua figlia è tornata. No, dico, non è perduta. Lei rivive. E se ci aiuterai a liberare questo luogo dalla strega, ti mostrerò dov'è. No, non è vero. Però ti mostrerò che c'è. La cercheremo insieme. sta ritrattando. Per caso sai dov'è? Tipo. Esatto, sto pensando che non sapevo dove era, però so che c'è, è viva e se mi aiuterai noi la libereremo da questo oscuro destino. Mi guardate. Il suo viso si rilassa, diciamo, e si fa sereno. E gli dà la possibilità di trasformarsi in un drago! Ora posso attaccare in pace. Cosa? No! Lui ti dice, ti ringrazia, grazie, viandante senza nome. Il nome è Bardis, ma... il puro. No, non è così. Ma guarda con chi va in giro, non è vero, non lo dicono mai il puro. Esatto, quello che bilancia il karma delle cose. La bilancia, dice, la guida morale, il peso, il contrappeso. Purtroppo il mio spirito è stato maledetto dal conte in persona per soffrire in eterno tra le mura di quella che era la mia magione. Ma mi hai riportato speranza e sento che ho ritrovato la pace. Vi offro quel poco che è rimasto nelle mie devastate stanze. Cercate nella mia cantina e troverete vino. Allora va e riempilo. Vino. Vino. No, cosa cerchi? Troviamo nella cantina, scusa. No, niente. Ha ritrovato la pace e si è dissolto. Anche la quando si dissolve, la dico. Non ti dice cosa trovi, è segreto. Grazie, anima in pena. Siete saliti di livello? Anche la maledizione dell'oscuro Strad può essere spezzata. E noi lo faremo. Seguitemi, Orlias! Ah no. Alle cantine, solo, ovviamente. Un altro Archie, segnati un inspiration. Recupero Archie. Subito. Già faccio in tempo a usarla. Rega, fate riassunto allora, veloce di quello che è successo. Grande catta. È l'unica goduria che c'è. Effettivamente, hai ragione. Dobbiamo usarle perché non ci possiamo. Cioè, dobbiamo godere di questo, non dei livelli. Grazie, catta, per averci fatto capire il vero spirito. E il role playing il vero gusto, non il salire di livello, bravo. E a questo Laz se ne andò. Non posso stare qui a sentire anche Archie. A sentire queste anche follie. Archie, no, beh, Archie. Laz. Ah no, lui con il background, è vero. 3 6 12. Ok. Oh. Perché sembra un albero, ci sta venendo addosso. Visto che sto condividendo anche la casa albero, cosa sta facendo Archie? Perché c'è un Frarx e un Super Frarx? Hai parato la telecamera, la videocamera? No, però sto condividendo lo schermo. No, però non farlo perché stai condividendo anche l'audio. È bellissimo l'audio. Esatto. Togli l'audio. Aspetta, l'ho muto io. Silenzio. È bellissimo. Senti che come... Allora, io l'ho buttato. Ho vinto io, raga. No, puoi tenerlo se vuoi. Hai ucciso l'altro Archie. No, se vuoi puoi tenerlo, però si silenzia. A me piaceva, l'eco. Ma qual era quello buono e quale quello malvagio? Io sono quello buono. Dicono tutti così, comodo. Disse con la testa di quello malvagio in mano. Io sono quello buono. Comunque, vedete, avvicinarsi questa gigantesca, questa capanna che appoggia su questo tronco d'albero. Le cui radici sono semoventi, quindi sembra questo mega ragno che avanza. Ha schierato la casa proprio. Ok. Così sì. mi dovrei essere silenziato, non dovresti dare sì, sì. Va benissimo. Oh. Qua vedete anche, per darvi un'idea, il giganteschio, che chiaramente non è qua, adesso svolazza in giro. E lei è comunque sopra o non la vediamo? Adesso non la vedete. Okay. Ogni tanto vedete un'ombra che chiaramente non tutti i soffitti, anzi molti pochi dei soffitti sono ancora intatti di questi ambienti. Quindi sopra di voi molto spesso siete scoperti, per quanto voi comunque siete riusciti a trovare riparo tra queste mura per sfuggire a lei che vi cercava per aver rubato le sue preziose caprette. Noi abbiamo donato la libertà. Beh, io però mi ha convinto che ci sia qualcosa. Io ne ho ucciso una. Che ci sia qualcosa nella cantina che ci possa aiutare. Quindi dico: andiamo presto, andiamo nella cantina. Sì, ci sta, l'abbiamo sentito tutti, anch'io sono d'accordo, effettivamente. Comunque può essere anche un riparo. Seguitemi. E dov'è sta cantina? Boh, sarà in basso che vedo le scale. La casa è grande così, se vuoi metterti a cercare. Però quella è una scala che va giù o su? Quella è una scala che va giù, su. Effettivamente. E allora sì, vai! Va bene. Allora. Così alla cieca, vai, vi piace. Vabbò, dai! No, ci sta, è un modo per scappare, poi se c'è qualcosa che ci può aiutare, visto che... Magari ci intrappolerà lì. Te l'hai convinto, buono. Potrebbe anche intrappolarci lì, però esatto. Vabbè, voi siete liberi anche di non seguirmi come sempre. Allora, esatto, direi di andare in ordine di iniziativa. Aia, allora niente, vediamo cosa fate voi e poi dopo. Catta, allora però. Seguitemi e andare tutti avanti. Ma no! L'abbiamo pensato tutti, tranquillo. E invece no, 15. 11. Beh, ti piace? 14. C'è solo un problema, devo tirare anche l'alce. Ti piace? Cosa? 18. Aspetta. 20. Cazzo, l'alce ha fatto 3. Porca troia. Oh, è Roland, dai. Chi è? Sfortuna. Cosa ha fatto? 18. Non ti vedevo, scusa. 22, 20 di dado. Fatto. Secondo fatto io, Catta? Anche la mia alce. 3. Gli animali dopo. Bravo, così non devo riscrivere. Gli animali dopo. Inspiration. Sì. Io adesso tiro con iniziativa. Ok, tiro, scusa, con vantaggio. Bravo, tira con iniziativa, mi piace così. Dai, tira con iniziativa. Beh, non è male. No, magari si prende i dati. Ma non importa, lascia lì. Che dà? Che iniziativa, si anda soli. Si anda soli, cosa devi tirare? Infatti no, niente. Allora, il primo è Garrosh, cosa fai? Vado verso le scale, anche a me ha convinto quel tizio. Ok. L'ho sentito, sì. Anche se ero un po' spostato, io forse no. Sì, avete sentito tutti. Allora sì. Quindi 35, quindi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con un movimento arrivi qua, poi hai la tua azione. Usi anche quella per muovere. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivi in fondo alle scale. Qui vedi che vanno verso il basso, cioè in fondo alle scale, scusa, dove le scale vanno verso il basso. E vedi che praticamente il passaggio è ostruito da una grande quantità di detriti e di assi che sono crollate. E praticamente stimi ad occhio, grazie anche alle tue perizie innate di nano muratore, che una persona da sola riuscirebbe a ripulire il passaggio in 4 ore. Chiaramente più persone riducono questo tempo. Okay. Ad occhio, secondo me, Arci ci passa, nella forma in cui è ora. Non può, proprio non ci passa. Borea, ho anche perso un chilo, Li ho presi io. Adesso non ci passa anima viva. Se liberate tutto il passaggio, ci può stringere ed infilarsi. Non ci passa anima viva? No. Cioè, la mia domanda era se lui fisicamente... Sei non muore! Non ho capito cosa dici, Sceo, sotto il rumore. Lui può aiutare a liberare, però. Sì, certo, anzi, scava anche abbastanza. Non capisci? L'anima viva no, ma le anime morte. Comunque, quattro persone ci mettono comunque un'ora. Ok. Quindi di qua non si passa, insomma. Allora, vabbè, posso farlo come azione gratuita di urlare. Rega, di qua è bloccato. Non... È tutto crollato, non si può scendere tutti, da qui. Sono tutti consapevoli della situazione. È stato divertente, tipo... È come hai detto, tipo... Ci vogliono 4 ore per liberare questo passaggio. Ok, posso farlo come azione gratuita? Sì. ci sarà un altro passaggio. Dove sono gli Jedi quando serve? Sfortuna. Forse Sfortune c'è qualcosa. Ok, Sfortune. Quindi io sono all'entrata di questa camera. Tu puoi fare cioè, cose. Com'è la situazione più a destra? Se ti ho posizionato bene, io ti ho messo lì, poi effettivamente non ti ho detto più niente. No, ti mandava bene. A destra, com'è? Se c'è un corridoio a destra. Ah, qua a destra. Ci sono altre rovine, altre stanze. Vabbè, allora corro seguendo il nano che l'ho visto impazzito. Però l'ho detto che di qua è bloccato. Liberalo, sfortune, misfortune, con i tuoi poteri. Quindi uso anche la mia azione per fare dash. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriveresti qua. Ok, fai 30, quindi sono 6 quadretti. O comunque vuoi portare l'iniziativa per 2 volte. Cosa che vuoi, Vez? Quanti ha fatto Marco di iniziativa? Ha fatto 18. 18. Poi chi c'è? Io. Andrea. E poi c'è Atanas. 14. Quanto ha fatto? No, io 15. Sti cazzi. Avevi detto 11? No, ho detto 15 e l'altro 11. No, non è vero. Anch'io ho sentito 11, ma se hai fatto 15 vai. Cioè non... Come avete sentito 11? Lo stai dicendo? No, avevi detto 15, però era bello darti conto. Ah, ok. No, allora... ho sentito 11. Ma io ho sentito 11 sul serio, però vai, no, se hai fatto 15. Il mio arci ha fatto 3, però io lo uso 2, come cavalcatura e quindi gli dico, smettila di stare lì a ciondolare, presto! No, è vero, Vez, tu hai detto ho fatto un po' meno dell'alce, 2. No, bastardo. No, questo no. Vabbè, ma deve finire il turno Marco, in realtà, era solo così. Scusa, quanto hai di destrezza tu, Vez? No, non ho destrezza, cioè ho 10. Non ho destrezza. Quindi, 2. Quindi, no, basta. Cioè, tirato 2, rimane 2. Non è 2, basta. Cioè, faccio sempre tipo 2, 3, 4. Oh, visto, l'ha detto. No. Vai, Bardistra, cosa fa? Ma Marco ha finito il turno? Perché l'ho interrotto. Si è mosso fino a lì. A questo punto l'alce si può muovere di... è vero che io non posso interagire con questa mappa ok, no, ci sta, ha senso, però c'è più casa dal lato, diciamo, alla mia destra, e quindi provo ad andare di là dicendo troviamo un'altra via di là, la faccia lo dice Vardistran. Guarda, il trucco che hai usato, Giulio, condividi il tuo schermo. No, catta, non mi va. Vai in basso e poi a sinistra. Che sta aperto delle schede. Alla tua sinistra, alla mia destra. Esatto, bravo. Faccio 2 movimenti dell'alce, 50 più 50, 100. Allora la faccia di Vest lunedì 100. Sera. Quindi, questa è la faccia di Atenas quando ammazza le persone. Sì. E questa è la faccia di Vardistran quando lo vede. True story. Tra l'altro, Vez, se posso, in realtà tutti, forse stiamo tralasciando i tratti caratteriali, sta roba qui, perché tu avevi tutti quei tic che erano sbellicosi. Io per entrare, sì, avevo tipo alcuni tic effettivamente. È vero. Erano sbellicosi. Quindi il background non lo usi. Ma in teoria non va a impedirmi cose, tipo semplicemente può essere che se tipo do la carica all'alce, prima faccio tipo una roba alla Fabbro, tipo tu porcone, via. È tipo ossessivo compulsivo, eccolo, che deve fare o che deve rifare. Sì, per alcune cose sì. Tipo e poi sei, vabbè, ma l'essere super... Vai a correre con la mascherina, Giulio? Assolutamente no. Va anche detto che stando tutti in questo posto qua, alcuni miei tic, tipo, comunque stanno ormai, cioè il mio personaggio è andato abbastanza fuori di testa complessivamente. Sta quasi liberando dei tic, secondo me. Comunque, Giulio, se vai a correre con la mascherina, col fatto che passa un po' meno aria, ma più pesante. Non vado a correre con la mascherina, sono un coglione. Non ti metti la mascherina sulla bocca, passa un po' meno aria e diventa più pesante. Esatto, sugli occhi è ancora più difficile. In realtà ne ho visti un paio che aveva la mascherina a correre. È come correre in alta quota, ci sta. È per il pro. Dopo un movimento arrivi qua. No, non è come correre in alta quota, perché semplicemente non è che ti manca solo ossigeno, ma ti respiri anche molto più anidride carbonica, quindi è un casino. Più figo. Anche se devi gli occhi. Sì, allora, dove c'è, allora, appunto, chiamano l'ambulanza perché il calice è proprio a un certo punto. Vai. Se sei un organismo, scusate, debole che non può utilizzare le anidride carboniche per stare energia e ossigeno, è un altro discorso. Neanche tu lo vuoi fare, fenomeno. Certo, CO2, no, tutti l'acide, ma l'O2 easy. Va bene, scusate, volevo concludere il turno di Vez. Dopo un movimento arrivi qua. La situazione, vedi, tra i buchi che ci sono nei... Sì, almeno aveva iniziativa 3. Eh sì, ma se la uso come cavalcatura è la mia iniziativa. Ok, scusa. No, però, oddio, va detto una cosa, a meno che tu non mi dica che io vedo una scala che va giù prima, ovviamente, però non credo. No, qua è dove arrivi dopo solo il movimento, non hai ancora usato l'azione e questo è quello che vedi. Intravedi appunto questo gigantesco blocco di legno semovente che sta andando verso destra. Però non può entrare da lì. Cioè, quelle che io vedo sono comunque delle barriere, cioè lui in teoria non riesce a entrare. Sono dei muri che sono diroccati. Ora, la sì, mole di questo, quindi, valuti che sia abbastanza facile per lui tirarli giù. Ah, quindi dici che sfonda. Tu lo puoi... Non l'avevo capito sta cosa. Puoi facilmente intuire che una bestia così grossa è molto vabbè, niente, ho sprecato... Vabbè, uso l'altro mio movimento... Retrofront. Ok. E dovrei andare in basso a sto punto. No, non così tanto, dai. Dico, arriva, scansiamoci. Quindi, stiamo giocando ad acchiapparello con questa cosa, cioè iniziamo a scappare. No, boh, per trovare la cantina, di là comunque non posso passare. In realtà, esatto. Cercare... Spoiler, il più lento verrà mangiato. Cioè, vabbè, ho sprecato un po' del mio turno, però almeno siamo... No, in realtà no, va bene, stai esplorando. Hai esplorato la zona. Ok. Ci serve la cantina, va bene. La cosa ti dice che non l'hai già trovata. Beh, speri in un altro ingresso. Se è così grande questa casa, speri in un altro ingresso. Ah, so che ci sia una cantina che va per tutta l'area. Raga, no, guarda che non ci ha detto andate nella cantina per uccidere la strega, ha detto troverete qualcosa nella cantina, poi dopo, cioè nel senso... A me ha dato la sensazione che invece sia la svolta. Anzi, non rompere le cose. A me ha dato la sensazione che possa essere un aiuto quello che... Allora potrei essermi sbagliato. Vai, Atanas. Io mi muovo di fianco a Sfortuna. L'H è muta, come la D in Django. Ma perché è davanti? anche a metà di una parola può essere muta, eh. Allora stai muto, vediamo. Ecco, passa il turno, bravo muto. Mi muovo di fianco a Sfortuna. Ok. È più, un po' più a sinistra. Per avere la visuale dalla stanza, se riesco, se ci arrivo. Sì. Ok. Qua dici? Sì, più o meno. Lì. Arriva! Che fastidio. Tocca forse proprio a te, no? Sì. Penso per forza. Anche perché Race si è glissato. Dai, infami. No, non siamo tanto distanti. Da solo. Sì, ci vediamo tutti. Il druido può. Cosa fai, Arch? Tu sei sotto ma c'è, riesci? Cioè, che cazzo di caga? Ah, vabbè, sono un passo lì, non sono andato sotto. Sei lì che stai scavando. Ci voglio 4 ore! Cata, il tizio, il coso dove arriva? Da sinistra, lo vedi? C'è un cazzo di albero, Arci. Sto bagaglio gigante. Perché scappate? Non lo so. Non sto scappando, lo sto circondando per poi arrampicarmi chi sopra e entrare dalle finestre. È la classica mossa antistrega. Beh, io sto anche lì. Okay. È vero, effettivamente Giulio non ha un gran curriculum contro le streghe, stiamo attenti a quello in realtà sono quello che ha subito meno danni. Sì, e c'è un motivo, direi. Lì, fermati di capo, lì. Quindi già. No, su. Va bene. Qua. Inizio. Poco prima del muretto. Anche Sheo nell'ultime due di Umbra Imperi non ha subito danni, quello che ha subito meno danni. Sì, ma lui è totalmente scappato, io avevo comunque colpito. Scappato non è vero. Ma Arci, ma è necessario fare adesso questa cosa? Cioè, tirami un dado per vedere, perché devo partecipare anche allo scontro? Ah, devo partecipare? No, io... No, peace and love. Bravo. 60 cavalieri dietro. No, perché? Cosa? No, beh, vabbè, faccio andare prima loro. Catera davanti. Catera davanti. Io aiuto, aiuto i miei amici o li lascio morire tra atroci sofferenze come vorrei che fosse nella campagna in cui sono master. Aspetta, in tutti i gruppi c'è la retrovia che guarda le spalle. Ma Arci, cosa stai facendo? Stai pulendo? Niente. La casa avanza lentamente di 30 piedi. C'è tempo per aggirare, sul serio? Per pulire la tastiera? Garrosh, ti mette a scavare, cosa fai? No, scavare no, capisco che è troppo lenta la cosa, per cui... È un camper! Quindi. Nel muovermi prima ho visto, cioè solo quello che ha illuminato, diciamo, abbiamo visto. Questo? Diciamo sì. Di sì. No, quello non è un camper. No. Pensavo di allora, ti spiego la mia idea. Se lei continua ad andare dritto in quella direzione, verso Patk, pensavo di caricarla, ma o lateralmente, diciamo, sul sud-ovest rispetto a lei, capisci? Bah. Mi stai sentendo, Katta? No. L'ultima parte non si è sentita, scusa. Dicevo, se usiamo la casa come rosa dei venti, vorrei colpirla tra sud e sud-ovest, per intenderci. Cioè aggirarla un minimo e andarla a colpire di là. Quindi proseguirei il corridoio che va verso sinistra. Ok. Tanto ci sono delle brecce in cui passare, no? Si capisce anche dalla mappa. È tutto in rovina questo luogo. Ma poi al massimo c'è chi cammina sui muri, Katta. Esatto, tu non hai problemi. Yak scrive, ah, Arci che bacchetta Vez sui quadratini, non faccio altro. Madonna sti bacchetta Vez. Se è vero, ma giusto. Allora, sì. Quindi tutti muovi di 7 quadretti, quindi tanto 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Col tuo movimento arriveresti qua. Usi anche l'azione. Continuare ad andare dritto. Beh, in realtà potrei mettermi di fianco ad Atanas, vediamo entrambi da lì dalla porta, no? Esatto, sì. Una roba del genere. Okay. Sì, allora mi fermo lì e no, non faccio niente. Ok, avete sfortuna. Ok, riesco a fare tipo un tiro di arcana per determinare se la casa è una creatura intelligente. Se la casa è una creatura intelligente, la casa non quella dove siete. Il capanno. Catta. Certo che puoi, no? È una casa in rovina. No, Catta! O avanti il prossimo. Magari adesso si alza in piedi anche questa. Rega. Quello che vedete è il figlioletto che sta tornando dalla mamma. Esatto. Sei seduto in realtà su una bestia gigante. Si tiene male la mamma, però. Sto morendo dal ridere. 14. Perché non vediamo più Arci? Perché è morto da ridere, non ti l'ha detto la 7. Sto cazzeggiando un attimo su WhatsApp. Allora, sfortuna. Tu, grazie alle tue conoscenze arcane, fai un ragionamento in base a quello che ti hanno raccontato i tuoi prodi alleati. Quando hanno combattuto sulla collina del Giullare, sia quando hanno combattuto quando hanno distrutto la statua di legno che era stata innalzata in Tordiscad, sia quando hanno abbattuto l'albero che si era animato. La fonte. E ne hanno fatto un cartone animato. Gli hanno dato un sacco di cartone. E riconosci lo stesso tipo di magia, cioè un potere che riesce a dare la vita a oggetti inanimati. Quindi c'è la cazzo di gemma nascosta. È ragionevole pensare che la fonte che anima questo gigantesco costrutto possa essere quello che cercavate, che ormai vi siete già scordati, però una delle cose che vi avevano detto... No, io me la ricordo la Gemma. No, ce la ricordiamo. E che non esatto, so se la conosce Sfortuna questa storia. Però. La seconda Gemma. Infatti io mi sono basato sul fatto che voi abbiate raccontato queste cose. Beh, può essere. Beh, comunque aveva partecipato anche lui alle riunioni con Martinkov, quindi... Quindi in teoria... Quindi sì, la... inoltre sapete che appunto la... la strega, avendoci la morte con i Martinkov, è la prima sospetta indiziata per averla rubata. E poi, essendo un oggetto di grande potere, potrebbe averla utilizzata in questo modo. Bene, okay. Poi cosa fai? Che cosa ho usato per fare il tiro per... d'arcana? Azione. Sì, sarebbe un'azione, però cioè, è un po' reputo un po' bruttino che uno per ricordarsi una cosa non, poi non possa fare nient'altro, quindi se ad esempio vuoi muoverti e lanciare, o lanciare un incantesimo, puoi farlo. Sì, voglio lanciare una maledizione e mettere svantaggio sull'intelligenza. Alla casa. Cosa sta succedendo? Sì, avrò intelligenza, quanto pare. Lo stai cercando, Katta? Vedete questa? Vediamo qualsiasi cosa. Quindi sì, se per guardarti un pornaccio, arrivano da una pagina, pagina comunque. Cat su Google, come fingere un crash durante una sessione di D&D? Compendium, spellbook. Ma no, ma perché c'è anche come vincere. C'è una pagina in cui è scritto vinco. No, c'è cioè il manuale il manuale del master in realtà è un fake, sostanzialmente, tipo tutto di cartone, si apre, dentro tipo è vuoto e c'è tipo un foglietto che tu lo apri e dice basta che dici vinco. Fare il master ad Angels è facile, basta dire vinco. Oh, ok. Applico le regole. Ripetimi il nome dell'incantesimo, ex, giusto? Sì, ex. Okay, il nome o l'ex nome? L'ex nome. C'è un incantesimo anche in D&D per lasciare una ragazza. Cioè. Più di una. Anche palla di fuoco dovrebbe funzionare per questa situazione. Hai anche ex come incantesimo. No, quello non c'è. Non so. Carino Giulio, ex. Vuoi dare delle idee a Laz? Se vuoi bullarti di Laz piuttosto? Sfoggiando sono il tuo... cose che uno può fare arrivati. Sfoggiando il tuo per pizzetto. Giulio, quella è una barba di 12 anni. No, però 3 mesi. 3 mesi. questa è di 2. Questa ha 2 settimane per fare il paracone. La mia 3 mesi questa. Sta no, zitto, ok, non c'è niente che te lo impedisca. Io devo fare un tiro salvezza anche qua di lato. No, non devi fare nessun tiro salvezza. A me non io, penso. Se ti piace infilarti le matite da qualche parte, che non devi far finta che serve tra la barba. Tocca a te. Sta a me. Allora... No, sta a te a metterti una matita nella barba. No, è troppo corta. Fai delle giù. Facciamo che finisco il mio turno così. Okay. No, diciamo che a me riesce anche bene perché è tutto ricci. Posso anche mettere una di più. Ma quindi Marco cosa fa? Io no, lì. Ha maledetto la capanna. Ah, nice. Bardi, simpatico Giulio, eh. Io allora, sono aspetta, ancora aspetta, convinto Giulio, che la chiave di tutto sia la cantina, quindi provo a cercare a andare oltre. I miei capelli arriverebbero qua. Verso giù, verso destra, verso giù. Se li taglio li metto qui anch'io. Io neanche. Hai ragione, giù sul lato, no, non di là, dall'alto, scusa, alla destra, destra giù, giù destra, a destra giù. Quindi qua? Sì. Dove il sopra e il sotto. Sto un po' allontanando, però faccio 2 da 50 di adesso. Punto. Pezzo sta scappando. Pezzo sta scappando. Esatto. Dobbiamo far rollare la nave. No, tutta a destra. Voglio andare giù, cioè a destra ma giù. Poi a destra ma giù. Sì. Cioè lì avevo un bivio. Sono andato a destra e poi voglio andare giù. Sì, dritto e giù. Catta. Voglio quella maledetta altra scala. No, vabbè, di là c'è tipo il giardino. 40, 50. Che poi sarà la scala, ovviamente, per andare su. Però vabbè. Ok. Vado a esplorare. Arrivi, col tuo movimento arrivi fino a qua. Cioè, i due da 50? No, uno, col movimento. Manca l'azione. Posso fare un altro movimento. Sì. Ok, entro. Cosa c'è? Allora. Arrivi qui e come vedi la stessa scena che ha visto il tuo amico dall'altra parte, ovvero un corridoio che va verso il basso, completamente otturato dai detriti. E anche l'altra scala che vedo dall'altra parte, quella che si va su? Quella invece è completamente crollata. Vabbè. Posso muovermi ancora? Teoricamente puoi scendere dall'alce e andare a piedi, questo sì, però non ti conviene perché tanto poi dovresti risalire. Certo che no, cioè l'alce ha già fatto i 200 metri? Sì. Ma guarda, i 200 piedi da una casa. Perché è un alce? È un alce non questo male. Stato sta clamorosamente prolungando la sua vita, pazzesco, va bene? Per forza, sei dall'altra parte del continente, È la tattica di Calvus, mi pare. Atanas. E continuo a spostarmi di lato per prendere la casa al fianco. 4, 5. Ma poi devo swappare e venire su Discord di là. Fai quello che credi, Arci. Ma non puoi caricare il telefono prima della sessione, sapendo. Col tuo movimento arrivi qua. È uno in meno. Non sono riuscito a scegliere. Arrivo. Vado dritto su. Anche in realtà arrivo prima qua. E poi, non so, incocco una freccia. Incocco una freccia. Anzi, no, puoi anche lanciarla, volendo. Ma la vedo, la casa. Incocco. Posso dar fuoco a una freccia e sparargli? Sparare una freccia? Vedo che le abitudini non sono cambiate. No. Spararla il prossimo turno. Ma dai, io ho due interazioni gratuite con gli oggetti. Se combatti con due armi, sì, ti sentiamo. Vabbè, no, a prescindere. Ne ho due gratuite, posso farci due cose. Puoi dar fuoco a due frecce e il prossimo turno lanciare entrambe. Va bene. Se no, non sono andato a fuoco. Nel frattempo. Preparo le frecce infuocate e aspetto. Ok. Allora, dove siamo? Qua. Spiedini di casa! Cosa? Patk. Ah, una cosa, vedo una vedo che ci sono delle finestre in sta casa che si muove. Praticamente hai la base che ci sono queste radici gigantesche, poi parte il tronco che a un certo punto è tranciato e parte questa capanna, ci sono delle piccole finestre e sentite molto forte un'altra cosa, adesso che ci penso, il rumore di tante voci di volatili, di corvi, che si lamentano ad ogni passo come se fossero intrappolati, venire dall'interno della capanna. Questa cosa è solo perché non vuoi che io dia fuoco alla casa. No, dillo. Non ci avevo pensato, lo fanno. Ma quindi sta casa... Sì, esatto. Ah, ok. Cioè lui l'ha maledetta, però in realtà... Pronto? Tutto il mio divertimento. Io ho perso. Quindi torni umano, quindi devo metterti un altro... No, vabbè. Hai detto sono un druido. Ah, perché vuoi salvare i poveri corvi. Wow, bravo. Non è abituato. Cercarci, sì. Credo che l'avesse pensato così. Allora, che cattivo. Perché io, ecco perché non sento Arci, perché sono silenziato. Di sborrare non capisco più niente. Ora si è sentito. Corro e ti avevo silenziato lì. Da lì riesco già a aprire la baracca, volendo. No, devi combattere la casa. Riesci ad arrivargli sotto. A che altezza è? Schiacciato il turno dopo. Pianerottolino, catta. Fai conto che sarà a 30 piedi, comunque è come se fosse una creatura gigante, quindi non è che la puoi scalare come se fosse un albero. Cioè, lui cercherebbe di impedirti di farlo. Neanche se bisogna vedere camminare sulle pareti. Semplicemente c'è un orso che, sì, potresti avere un vantaggio. Semplicemente c'è un orso che gli arriva addosso. Beh, posso attaccarlo, però. Prego. Aspetta, tu mi avevi mandato già la cosa dell'orso, vero? Nella chat, non mi ricordo dove. Ma c'è anche nel server. Eh no, lì appunto. Vabbè, dimmi Giulio quanto ha al colpire. Non lo so, so che c'è. Già sott'occhio, aspetta, ci va. Vabbè, fai 20 di dado così ci leviamo il turno. Marco, dov'era la cosa? Ha un più 7 a colpire. Per i danni a morso, che è un D8 più 5, o artigli, che è 2 D6 più 5. Allora, aspetta, il primo tiro faccio 19. Colpito. Il secondo tiro, 17. Colpito. Quindi faccio un D8 più 2 D6 più 10, giusto? Marco? Vabbè. Se sei un orso polare, sì. Sì, il profilo è quello. Sì, sì. Faccio 10 più 5, 15 più 10, 25. Ok. Danni magici. E poi urlo in orsesco. Che vuol dire libra i corvi. Ok. Quindi adesso la casa si muove e schiaccia Arcia. Allora, quindi adesso... Perché ce ne sono uno scheletro? Arcia, quando lo attacca, vede che da dentro la casa esce uno degli spaventapasseri, come quello che avete ucciso, e un altro invece che era su un ramo scende ed entra in questa stanza. E io capito che ho attaccato, scusa, l'albero, no? Sì, l'albero. No. Gli altri era dentro questo qua, è uscito da dentro la casa. Domanda, noi l'abbiamo visto l'attacco, più o meno da dove siamo. Atanas, sì? Tu? Forse no. 10, 20, 30, 40. Hai visto l'orso che... Cioè, la mia domanda entrava nelle nebbie e contro una macchia grossa che si è movente. Allora, la domanda è semplice, vedi tu se hai voglia di rispondermi. L'attacco, vediamo se capiamo se effettivamente fa effetto. L'attacco fa effetto, le sue unghie, i suoi denti penetrano nei rami e vedi uscire una specie di linfa verde che come se fosse sangue della pianta. Ok. E lei ha fatto 25 danni. Magici. Sì, li ha presi tutti, tranquilli. Ho fatto solo magici. Ok. Quanto gli ho fatto, Katta? 25 danni li hai fatto. Magici. 25 magici. Danni. No, ha detto solo magici. Danni. Ok. Questo era il turno di Pac. Ok. Agiscono i due spaventapasseri. Che... Quindi Vez e Giulio. Esatto. Non è appena saltato giù. Spaventapasseri. Sì, uno dei due è saltato giù. Ed è entrato nella stanza. Nella stanza. Quello che è uscito dalla capanna usa il suo sguardo terrificante contro l'orso. E, devi fare un tiro salvezza sulla saggezza. Oh, che peccato che provi un druido. Boom! 20 di dado. Direi che può stare muto. Quanti metri ha di 20 di dado quando la telecamera è aperta? Adesso la telecamera non riprende i tiri che faccio sul computer, riprende la mia faccia. Esatto, quindi la tua faccia che tipo fa... Oh, 20! 20! Quando faccio 20, sono esattamente come la foto che ho lì nel profilo. Ok, va bene. Con la mano nei pantaloni. Po- poker quindi... face. Ok. Primo, Garrosh. Da lì riesco, vabbè, ad arrivare allo spaventapasseri e anche a caricarlo, direi. Sì, lo spaventapasseri lo carichi oggi. Ok, allora lo carico. O dovevo dare io il Galle Danza, se no vi muovevate. In realtà io stavo girando per caricarla, io, quindi... No, io, mi, io mi sto muovendo un sacco. Allora, il mio... sì, esatto. 9, fantastico. Ah, ovviamente 9. Va di nera. Scusa, non l'ho detto, va di nera. Sì, ho fatto due di dado. 9. Basta fare 2 di dado. Hai mancato. Poi posso fare l'attacco extra dovuto dal caricamento? Sì, sì, sì. 24, stavolta lo prendo. Come hai fatto a fare 24? E sono 19 danni. Come hai fatto a fare 19 danni? Magici? No. Magici. No. E poi il secondo attacco 11. Come hai fatto a fare 11? Facendo 4 con un di 20. 11 colpisce. Sì. Che bello. 12 danni, quindi in totale 30 danni. Ok. Ma sì. No, 31. Tanto sono la metà. 31. Come con l'altro, questo qui è resistente ai danni non magici. So. Okay. Ce l'avevo un'arma master. Lo so, infatti. Ma pensa a quello che ha buttato via l'ascia contro le piante. No! Chi è che l'ha buttata via? Perché gli hai dato un'ascia contro le piante? Cioè, sì, è vero, tecnicamente l'ho buttata via. Allora, vabbè, non c'era altro modo. Era un'ascia magica che aveva più, faceva più danni alle cose di legno. Ah. Stiamo combattendo contro una casa completamente. Ok, mi ma muovo perché? A sinistra di due quadretti. Ok, uno e due. E riesco a vedere una delle... radici della pianta da qui. Allora, la nebbia ha una visibilità di 60, quindi beh, sì. 30, 40, 50, 60, sì. Riesci a vedere la parte anteriore della casa, della capanna. Ok, voglio lanciare Phantasmal Force contro la casa. Mm-hmm. Non so se posso, quindi forse l'incantesimo fallisce. Allora, fammi vedere la descrizione dell'incantesimo. Sei troppo giovane e inesperto, Marco. Cioè... Comunque siete cattivi, nessuno mi ha dato ben forte. parte vai, Vezzo, vai! No, cioè tu secondo me, Marco, ce li hai degli incantesimi per tirar giù la roba. Se non è terra smossa, no. Quelle sono legno e pietra. Possiamo fare palla di fuoco. Dov'era l'orso quando cadde? Se posso fare mano magica, tirare via un pezzo, un sassolino alla volta da distanza. Cioè lui ha detto che uno ci mette 4 ore. Quindi in realtà un'idea uno... folle. Però vabbè. Cioè tipo creare un pertugio in modo che io potessi vedere dentro e poi facevo Misty Step. Peticista. Oh, come quit un sentite? Gli artigli infuocati c'è la storia da sotto sì. Va bene, dopo gli attacco gli audio, spero che non abbia perso. Ok, riceve 2 danni di fuoco e pensa di combattere un orso con gli artigli infuocati. Allora, 2 danni di fuoco. Dai, a dopo, non è il momento di non rispondere. No, grande. Va bene. Ho avuto paura. Perché? Per questo che sei scappato. No, perché mi è partito l'audio, ma fortunatamente ha salvato l'altra parte, quindi basta che io li attacchi insieme. Non è fuoco, scusa, sono psichici. Vorrei darti una conferma o meno, ma... Adobe Reader userò il mio cellulare. Userà il tuo scudo? nel cellulare. E la mia ascia. E il mio arco. E la mia lancia. Ma il non mio Marco. Il mio Marco. Il mio Marco. Ma la moneta tedesca. Il Deutschmark. Bundesmark. Ma Kata, cosa sta succedendo? Si è inchiodato Adobe Reader. È morto. C'è lo sciopero di Adobe. Che deprimione. Vabbè, vabbè, dai, la sappiamo la mappa, cioè tanto più o meno la sai la mappa, dai, non, cioè, non abbiamo mai giocato con la griglia, ciao, ciao. No, non la mappa è funziona che... benissimo, dovevo andare a vedere le statistiche del team. Della, vabbè, se ce la mandala a noi, ci guardiamo noi. Prendete paura. Cosa? Oh, ma Kata non hai mai tirato, cioè sempre tu vinco e basta, cosa cambia? Non ti serve un destino? Volevo cioè, avere conferma che non puoi tirare neanche questa volta perché è immune ai danni psichici. Ti hai messo in difficoltà con dei mongrel, figurati con una roba così. Infatti. Vai, è immune ai danni psichici, tocca a voi. Sì, bravo, nel Marco, senso che... lavoro. Ma lui pensa lo stesso di star combattendo l'illusione, giusto? Sì, solo non gli fanno lui. Vabbè. Ma lui non lo sa. Va bene. Bardistra. Devo insegnare come si gioca con Warlock. Cos'è? Cos'era? Che cos'era? Eh? Arci? Dimmi. Che cos'era? Cos'era cosa? Ma perché non lo vediamo di nuovo se è passato il computer? Perché dal computer perché non lo vediamo. Perché è rotta. Cioè, la cosa deve fare i pipponi e quindi... Secondo me se aspetta un altro po' questo Covid gliene manda una, tanto gli va tutto bene. Guardi, stran, cosa fai? Allora... Da orso a gatto il passo è breve. Ah, sei tornato ad andare. Allora, io vedo tutto bloccato lì. va bene. Vedo il fondo? Bene. Sì, quello è il fondo della casa. Sì. Nota che il fondo non lo vedi ancora, perché la visibilità finisce qui. Vabbè, però io sento che stanno combattendo in lontano, esatto. Ma non lo sente più, è auto. Quindi risalgo. Ok, fai la stessa strada. No. Ma stai cercando di cambiare mappa? Sì. No, risalgo fino a... e poi vado a sinistra. Vuole portare l'effetto Pac-Man, esatto, wow. Per prenderli alle spalle. Allora, 10, 20. Sì, vuole andare giù per spuntare dall'altra parte. C'è un movimento, arrivi qua. Vuole circumnavigare il secondo. Fai il secondo. Prima di fare il secondo, vedi, passando di qua. Sì. Qui c'è una zona verdeggiante e vedi spuntare da lì. Sì? Questo sarà un ratto, ma in realtà è un serpente gigante. Però tu continui tranquillamente la tua cavalcata. Però sappi che qua c'è un serpente gigante. Ok, ciao amico. Esatto, ciao. Magari poi tipo farlo alleato. Beh, posso aprire un secondo fronte di battaglia, che problema c'è? Non ho capito, di qua o di qua vuoi andare? No, voglio andare a sinistra. Voglio passare sotto. Quindi... lì. Ok. Voilà. 30. Così esploro anche un po'. 50. Cioè tu praticamente stai tenendo sta cavalcatura solo per guardarti in giro mentre gli altri... No, e speravo di trovare un'entrata al sotterraneo, perché secondo me era la chiave, però capisco adesso che non c'è una possibilità. Vezza non ha capito che stiamo giocando a Dungeon, è ancora nella campagna di... l'altra campagna in cui fa l'esploratore. Va bene. Ma no, è che io pensavo che mi seguisse, poi adesso mi sono reso conto che in realtà è stato, come al solito, sono stato lasciato indietro. Non te l'aspettavi? Noi siamo stati lasciati indietro. Io sparo due frecce, ok, infuocate. Sono un 15. No, aspetta. No, scusa, ho sbagliato. Un 12 e un 19. Ok. Il 19 colpisce. 5 danni. Magici. No. e poi Giulio con una palla da tennis e con le frecce. E poi voglio fare sta cosa, voglio correre verso la casa e fare un salto e entrare da una finestra. Ok, lo potrei fare nel prossimo tour. Io c'è abbastanza spazio e tempo, se tiri anche le frecce. Ho un'azione di movimento. Con movimento arriveresti fino a qua, fai conto. Ma ho altri 10, se faccio il salto ho altri 10 di movimento. Ho 5. Okay. Più lì per fare il salto allora dovresti usare l'azione. No, è salto lungo. In corsa. E non è un'azione. No, mi basta fare... No, sì, è un'azione. Cioè, è un movimento. Un movimento ce l'ho. Un movimento. Aspetta, guarda. Questa cosa mi manca, non ho presente il salto in corsa. Mi scusi. Infatti se l'ha appena inventata, vedi che sta cercando il caviglio legale. Vedi che abbassa lo sguardo, perché sa delle caccate che sta facendo. No, sta dicendo. Ti guardiamo. Ne facciamo la giuria. Alle mani che sentenza diamo? No, è salto in lungo. Il salto master lungo. O il demiurgo? Salto, mi stai guardando? Non ha delle Olimpiadi. No, è un movimento. Jumping è un movimento. Non lo so proprio questa cosa. Jumping è un movimento. Se uno fa un long jump correndo, deve fare prima almeno 10 piedi e poi può fare il suo bonus di forza. No, attenzione. Bonus... Guarda, c'è un po' grande anch'io. Penso l'abbia googlato anche lui. Sì. Long jump run. Bravo Lincoln. Adesso li apro nella categoria di film. Vabbè, no, è quello lì, primo. Cioè, posso anche muovermi e farlo quello dopo. Cioè, non è un problema, però nel senso, è un movimento. Se un uomo canta la tecnologia instant. Adesso. Ma c'è scritto anche che ogni piede che percorri col salto è un piede in meno di movimento. No, non lo so questa cosa. Proprio... Cioè, quindi sostituisci il salto al movimento? Sì. Quindi in realtà fai la stessa distanza. Sì, però posso andare un buco, tipo. È solo un modo diverso di muovere, di fare il tuo movimento. Sì, è un movimento... Sì, no, è chiaro. Cioè, in realtà io aggiungo del movimento perché ho un'abilità di classe che mi fa aggiungere 5 piedi. Quindi io comunque muoverei di più. Però... Cioè in base al salto o no? Quando faccio dei long run jump. Non ho idea di da dove venga fuori, però ci può stare. Cosa? Immagino la scena, cioè la scena che tu ti metti a correre, mentre corri lanci le frecce alla Legolas, se poi salti sulla... Io posso anche aspettare il prossimo tour, non è un problema, però è un movimento. Cata, poteva anche diventare un drago e tirare giù quella la catapecchia, però non l'ha fatto per farti divertire, quindi ringrazia e fallo fare. Va bene, arrivi sul ramo. Comunque se Giulio può barare possiamo farlo anche noi. Certo, per infatti anch'io. Beh, tu lo stai già facendo, Arci. Sono lui perché mi deve far salire. Non barare, sì, è vero. No, scusate, non è barare. Cazzo, non l'ho mai usata, è la mia abilità del Champions che posso... Sì, guarda caso, la tua abilità non l'ha mai usata, Giulio. Allora il discorso è, perché non l'hai usata? Non può pensare, Giulio, perché mi serve per fare più metri, più piedi, con i salti in lungo. Perché ha troppi piedi. Condizione di personaggio. Perché non l'hai usata prima di muoverti sempre gratis saltando come un grillo? No, qui ha senso saltare perché voglio raggiungere la finestra. Di solito che cazzo sono senso... Ah, me la mania sta cosa della finestra con le streghe. Vabbè. C'era anche Rasa all'epoca, pazzesca. Sì, Remarkable anche lì. Ah, ok. E Ah, capito. Cosa... Mi permette di aggiungere 5 piedi, cioè il mio bonus di forza che è 5. Un quadretto in più. Ok, va bene. Cioè, quindi io lancio le frecce e poi inizio a correre, a un certo punto salto. Sto molto alla Legolas, mi piace. Userò la rule of cool. D'accordo, sta alla capanna finalmente. Io ho visto il 25.000 minuti. Sei dopo la capanna. Bene. Anzi, capanna, cosa fa la capanna? No, chi uccide? Ho scelto il turno sbagliato per fare un salto. Esatto, stavo pensando anch'io, bravo. La capanna si volta. Vai, mangia Giulio. Vedete che alza una delle sue radici e la schianta in terra verso una di quelle più in alto. Voi no, chiaramente non lo vedete, ma faceva per scacciare l'orso fantasma che aveva evocato sfortuna. Ma sono servito a qualcosa, sì. Sì, contentino, Marco. Poi un colpo di radice si abbatte contro l'orso. Vero, un 20... quello vero. Un 27 ti colpisce? No. Non mi pare. Ti ha mai colpito qualcuno facendo 27, Arci? No. No, allora perché dovrebbe farlo adesso? Dopo che mi missa cosa fa? Ti fa 25 anni. Miglia, pensavo si colpiva Arci. Io ne ho 60 con l'orso perché sono quelli maxati. No, erano 65. Comunque adesso sei a 30 perché avevi subito danni la volta scorsa. Più di 20 agli spaventapassi. Danni a colpo e tanta roba. Non ha mica fatto 27 agli spaventapassi. E poi il secondo arriva contro quel fastidioso arciere, quindi è saltato sul ramo. Dai Giulio, che ti arriva una bella radice di zenzero sulle gengive. Ma fa solo 19. 29. No, 19 di back. 19 di back. Allora. Che bastardo. 30 danni. Oh! Oh, porca troia, rega. Dove sono le palle di fuoco? Il sorriso di Giulio. Fortuna che avevo gli 11 temporanei di sfortuna. Dove sono? Giulio, a barare il karma poi ti punisce. La sfortuna dovrebbe farci un po' di... Ma ti ricordi che lui è il demiurgo? Ci starei attento. Infatti ha dato l'occhiata, ci ha dato un demiurgo. Vuoi anche dire che questo ha 3 attacchi in un turno? Minimo. 100 danni a testa, 100 danni in totale, praticamente sì. Lo spavento passa di quelli davanti, Katta, a chi ha attaccato? Faccio un altro salto in lungo l'altro lato. Quello che ti ha fatto ha cercato di spaventarti col suo sguardo. Boh, forse se entri dentro trovi un piccolo problema, che io non sono un passero. La strega sarà su. Attacco. Ma non passa dalla porta. Non sono un passero, attacco. Che casino. Attacchi, faccio... cerchi di attaccare lo spaventapasseri. No, ce l'ho lì davanti o no? Sì, chiaro che è lì davanti sulla mappa, ma lui è in alto. Ci arrivo o no? No? Ci puoi arrivare con svantaggio. No, vado sull'albero. Okay. 21 al colpire col primo attacco. Colpito. E 20 di dado, quindi critico, col secondo. Che cavolo, come sei bravo a tirare. Oh. Vi faccio la foto. Rega, visto che comincia il fight, passo sul computer così non mi vedete. Che... Nel critico carta devo solo raddoppiare i dadi, ma non il bonus, giusto? Solo i dadi. Quindi faccio un D8 più 4 di 6 più 10. Ecco perché vi salvate sempre, perché c'è Arci che danni. Che merda, 30 danni. Beh, Arci è anche un druido, quindi in realtà... 30 danni magici. Beh, poi, come azione bonus, tiro altri 8 dadi. Mi curo. Ok. E uso un incantesimo, cioè uno slot, meglio, di... aspetta che apro la scheda. Ok, intanto dopo lui si preparano. Io. Un incantesimo di... di terzo, K. Sì. Uso un incantesimo di terzo e mi curo 3 di 8. Adesso qua faccio. 3 di 8, 40. Ok. No, scherzo, 3 di 8 non posso fare 40. 3 di 8, 40. Mi curo 15 piedi. 3 di 8, 2000. Ok. Adesso ok. No, 15 piedi. Tanto sa che gli ritira giù il prossimo turno, quindi... 15 piedi. Sì, io no, sono... Ok. 15. Tocca agli spaventapasseri. Quello nella capanna guarda il cagnesco Atanas. E Cotta? I danni che gli ho fatto, visto che sono 30 più 25, come mi sembra, questi 55 danni mi sembra che li accusi o che se ne facciano a minchia? Era 1 e 1, 30 di uno e 25 dell'altro. No, pensavo l'altro 30... turno, nei due turni lì. Ah, ok. È ancora in salute. Quindi yeah. Sono serio. Ok. Non ce la faremo mai, alleiamoci con lui. Atanas, lo spaventapasseri ti guarda storto. Fai un tiro salvezza sulla saggezza. quattro. Sei talmente spaventato da essere paralizzato. Devi spaventare. Guarda l'aspetto positivo, anche se fossi stato lì a darti un più 3 non sarebbe bastato. Quindi Giulia è un passero. Esatto, sei un passero. Fino alla fine del suo prossimo della turno. Mia campagna. No! Guarda l'altro, nella stessa posizione della mia emoticon di Thor. È vero, God. Assolutamente. Gli mancano gli occhiali. Guarda cosa mi è arrivato. Guarda cosa è arrivato. Di birra, gli occhiali da sole. Garrosh. Niente, continuo a smazzolarlo. Guarda cosa mi hanno regalato. Lui prima. Non tocca prima lui, però. Ma è per temperarti il coso. Mi hanno regalato il martello cavatappi. Ah, non è per temperarti il codino. Ti manca, Garrosh. Tocca a te. Ok. Primo attacco. 14. Colpi. 11 danni. Secondo attacco. Stai attaccando, Sceo? Faccio 23. Ho uno spaventapasseri addosso. Mm. E faccio 13 danni. Tutto non magico. Ok. È ancora in piedi. E questo era Garrosh. Ora, vedete... dalle nubi del cielo volare attraverso questa praticamente volteggia sulla casa il giganteschio e sopra di esso appunto c'è questa persona, questa donna molto vecchia, molto brutta. Sì, insomma siete morti. Ma infatti si mette malino. Adesso se facessi qualcosa. In effetti mi sa che mi tira contro la strega, però è un po' un casino perché già la casa di per sé mi sembra molto forte e quindi sì, mentre io non credo che dobbiamo uccidere la casa. No, esatto, io sto lì finché non arriva la strega, ma se la strega è in alto la puoi prendere solo tu. Marco tu mi puoi far volare, ma non puoi diventare un'aquila. No. Certo, un piccione, ma hai mai visto un piccione che uccide una strega? Esatto. Cioè, visto un orso che vola? Certo. L'orso volante. 90 piedi. Ma potrei prendere l'incantesimo la prossima volta che salgo di livello? Ovvero mai. Basta, Marco, questa cosa. Hai un inspiration, Marco? Sì. Allora accontentati di quella, dai. Allora. Sentite dal giganteschio provenire arcane parole maledette e, mentre non salirete mai più di livello e vabbè non è efficace contro di noi, andiamo avanti. È vero, se avessimo una 3.5 con i livelli negativi saremmo tranquillamente in mondo, tanto più basso di dove siamo. Ah, fa ridere perché è vero, perché è vero. È satira. Allora, a te è una risata amara, sì, di consapevolezza. Quindi vedete che io purtroppo devo andare a letto tra 10 minuti. È vero. Ma come devi andare a letto fare domani? A pazienti domattina. A che ora? Alle 9. Però la tiro. Anch'io lavoro alle 9. Vabbè, ma io la tiro io devo arrivare alle 8 e mi devo svegliare prima, no, regà. Pazzesco, ci stai svegliare alle 7:50. Poi deve fare palestra, mangiare, fare di nuovo palestra, una doccia. No, è vero che Arci deve cucinare la pasta alla mattina. Puoi cucinarla adesso? Vuoi che ti saluti adesso? No, okay. Cucini la pasta mentre giochi con lui. Sembra uno che mangia la pasta riscaldata del giorno prima. Mangi la pasta alle 7 di mattina, cioè per me puoi fare qualunque cosa praticamente. Ok, degli neri oscuri tentacoli spuntano dal terreno e nell'area che adesso vedrete quando cambierò la pagina. E per la durata, finché rimango lì, il terreno viene considerato accidentato, difficile. E, se chi inizia il suo turno in questa zona o inizia il suo turno lì, dovete fare un tiro di destrezza o soffrire dei danni. Che bello essere master, è un sacco divertente. Ah, minchia, ci hai messo dentro tutti, bastardo. No, io no. Io no. Lui no. Tu no. Solo sono dentro. Sfortuna. Ma vedo che anche qualche ramettino della casa è dentro. No? Giusto, osservazione. Hai detto? Che tira anche la casa. Ah, sì. Però prima tiri tu perché tocca a te. Tu magari vuoi sapere la... Io voglio sapere questa difficoltà, intanto fai un tiro salvezza sulla destrezza. Sì, ma è enorme sta cosa. Sulla destrezza, rega, mi sa che ci vediamo al prossimo combattimento. Cioè, 90 più un quadrato di 90 piedi. Cioè, quel quadrato... No, vabbè, ciao. Sì, dove infatti è pazzo. È una strega, cioè è ovvio che fa un incantesimo. No, quello va bene di la strega. Il problema è anche che la casa fa 30 danni a botta e ne fa tipo 3 attacchi da 30 ogni turno. A che livello siete? Penso io. 8. A che livello siete adesso? Una tira salvezza solo destrezza. Adesso lo stesso di 20 anni fa. Ho capito? 8? Fatto che me? No, sta Marco. Oddio. Sta Marco. Che disastro. No? Okay. Ho capito. Ah, ok, sta me. 24. Crescono continuamente e anche la gira che classe difficoltà è uguale. Ok, io la vedo la strega. La strega ha attraversato quest'area sorvolando la capanna e poi è ritornata immersa tra le nubi e la nebbia. Ma quindi toccate fuga proprio. Sì, Marco bombarda la casa. Ha sorvolato, ha lanciato l'incantesimo ed è tornata lì. Sì, bombardiamo la casa, mi sa che la ok, casa... allora faccio due Eldritch Blast sulla casa. Sì. Lega la casa ha questa armatura 10, la colpite sputando con qualsiasi cosa. Cioè, non è vero, io con 13 o 12 non l'ho colpita. 10 e 27, che è un critico. Vediamo subito se 10 colpisce. Sono gli spaventapasseri che hanno la classe armatura. Ma tipo 11, no, ma anche la casa. Ho fatto 10, vediamo se colpisce. Come mai tu abbia questa. L'as non puoi dare la colpa a Katta. Il critico fa 17 danni. 17. Di cui 8 sono necrotici, 5 forza. Necrotici e forza li prende tutti. 10 immagino manchi. Cosa hai detto, scusa? 10 manca. 10 manca, sì. Spostati in avanti, man. E vorrei cercare. Se mi sposto a destra, riesco a uscire dal cerchio, cioè dallo sì. quadrato. Sì, riesci a uscire. Allora io esco. Ciao. Ciao, sì, Maria. Anche se ti sposti in avanti. Ah, no, perché è accidentato. Ah, è vero, scusami. Bravo, mi ero scordato questa cosa. Grazie, Adam. Fratello infigardo. Quindi anche se passi il tiro salvezza sei intralciato. Se il terreno è accidentato di suo, se passi il tiro salvezza non pigli i danni e non vieni catturato dai tentacoli. E chi spoiler. A quello che viene catturato dai tentacoli. In realtà l'alce. Cosa? I tentacoli cercano di catturare l'alce se tu sei in groppa. Te non ci arriva. Ok, l'alce è anche il bonus. E quindi cosa fa? Perché là non sta l'alce in realtà. Cosa faccio? Tiro comunque per l'alce? No, adesso, dato che la usi come cavalcatura comandata, non indipendente, sta a voi due. Quindi io tiro comunque sulla destrezza? Vabbè, abbiamo la stessa in realtà. Quindi però non cambia niente. Dai il bonus. Sì, dai certo. bonus con la più tua. Più 3, sì. Ed è un 17. Pensavo l'alce avesse più destrezza. No, l'alce fa schifo come me, 10. Il tuo animale guida. Vabbè, non è mio, l'alce è un normalissimo animale, mica la roba che fa quello là. C'ha solo la forza che è buona. Oddio, 17, dai, 17 passerò. Cosa succede quando fai pari alla CD? No, che vince, che vince. Vinco io. Vince Vex, la classe di difficoltà. Sì, dire... Seguitemi! Passo. Credo sia come fare pari con la classe armatura. Vinco. Cosa succede? Che bello. Vinco, basta, smetti, ho vinto. Vabbè, solo che il problema è che correremo di comunque metà, giusto? Dovresti riuscire a uscire di nuovo in fottio. Ma dopo come attacca? Vabbè, ci arriverò da dietro. Ma chi attacca tanto che... Ok, riesco a uscire con due movimenti, dove arrivo? Movimenti arrivi sarebbe. Vabbè, fammene uno intanto per vedere dove no, fermo, dove vai lì giù? Dove vai lì giù? No, vai dritto, vai dritto. Vabbè, sì, lì no, lì va bene. No, giusto. Quello è un movimento, ok. E quindi il secondo lo posso fare libero verso l'alto. Sì. Secondo è pieno. Vai. La scala che vedo lì, fra parentesi? È crollato. Va bene, su. Ho provato. Allora. Da lì il coso. Si esce però, vero? C'è il coso per misurarli perfettamente. Non andare dentro, cattabriga. No, ti volevo dire che qua questo muro è in parte crollato. Quindi io posso volendo passare. Potresti provare a saltarlo se mi fai una prova. Dov'è il misurino? Te lo ricordi, Arci? Sì, vai su. No, sotto la lente. Quello. Questo rischia di essere clicca una cosa drammatica. Clicca Snap to Center, quello. Clicca. Hai cliccato. Vedi? Ma scusami, catta, quanto... Se clicchi col destro ti fa... Puoi spaccare i movimenti. Mi spacco. Guarda, clicca su Vets. Vabbè, ma scusa, quanti un quadretto sono 5, hai detto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrei arrivare oltre il muretto. Se riesci a saltarlo, sì. Sì, ma non voglio andare dentro, catta. Cioè, smettila. Maledizione. Fammi un altro tiro sulla destra. Aspetta, lì però io sono a portata di quella roba, giusto? Sì, sì. Allora aspetta un attimo. Mi fermo un attimo prima e scalpito, pronto per la prossima per saltare e attaccare. Nel pavido sta dietro e poi... No, ho capito, ma è inutile che io vada a portata della cosa, però. Sì, ha ragione, stavolta. Salvi i tuoi poveri amici. Come inutile? Lo distrai così non uccide i tuoi compagni. Ma... Atanas, sei paralizzato dalla paura? Non credo. Dici? Anche perché così mi mantengo la possibilità di fare la carica, che sennò non avrei. Cioè, oddio, non cambia niente in realtà, a dire la verità. Tocca alla capanna. La capanna fa 3 attacchi contro l'orso. Tra poco vediamo un nano. Il primo, 14. No. Meccanato. No, però tu mi hai fregato perché mi farai fare una prova. La fa fare comunque per uscire. Lo so, ma mi vale come azione. No. Quella te ti vale come un movimento, lo fai durante il tuo movimento. Okay. In realtà puoi fare un salto lungo in alto come parte del movimento. Okay. Allora, il primo attacco ti fa... Mi è piaciuto, Beth. Tu mi hai fregato. No, ci stavo pensando un attimo, perché qua bisogna... 40 danni. È che con i quadretti è tipo scacchi, quindi bisogna stare un po' più attenti. Sì. Con un attacco? Ti danni qua. Un attacco. Beh, raga, finito. Che bello. No, adesso lui torna orso, però non è l'orso così forte di prima, mi sa. Secondo attacco ti fa per colpire un 21. No, allora no. Cosa lo dici? Sì, 21 no. Non è un 27, quindi non dovrebbe colpirlo. Catta, mi fai un piacere, non fare mai fumble o tiri bassissimi, mi raccomando. 34, era un 2 l'attacco precedente, il dato. Quanto ha colpito? No. Okay. Vabbè, l'orso ha una classe armatura molto bassa. Sì, è vero. Sì, quando divento nano, Giulio? Sei a 68 punti vita da nano. Cioè, ha un più 12 68 da nano, ok. Sì. Il terzo attacco ti arriva contro la tua classe armatura nanica. Contro la tua nanità. 16. Cioè, ha più 12 a colpire. Sì. Beh, noi abbiamo più 8, dai. Col terzo. E che numero è questo? È un 100. Non sai che numero è, ma l'ha colpito. Quanti danni abbiamo fatto? Ma Marco, tu non hai delle palle di fuoco o robe così, un po' più grosse? Terzo attacco sono 36 danni. 36? Io po'. Va bene, vuoi la guerra sta stronza, eh? Adesso lo spettiamo io. Oh, tocca a me adesso, però. E adesso tocca a Pac. Oh, e adesso che sono nano, glielo dico proprio, adesso tocca a me. Allora. Tutte le ho farotte. Io vado. Via, cazzo. Capo. Vuoi cambiarmi la pedina? Basta fare così. Non ritorni orso. Torno orso, cambiamela di nuovo. E quello lì giù nell'angolo chi è? Giulio? Sì. È paralizzato. Perché? Fino a Giulio. No, sono a posto io. Si ribecca questo giro. Ah sì, perfetto. Io vado a indietro. Posto, sei paralizzato. Vabbè, sono momentaneamente a posto. Allora, tu Giulio hai armi magiche? No. Bravo. Vado indietro. Di quanto? No, aspetta un attimo. Aspetta. Tu Vez ti vuoi lanciare a combattere? Sì, il prossimo turno andrò. Tu Giulio quanti danni fai a questo coso quando combatti? 5, quei numeri di merda che facevi prima. Sì. No, povero Giulio. No, in teoria sono 3 attacchi, ognuno può fare un D8 più 5. Vabbè, ok, comunque vuol. Allora, mi allontano Katta e faccio su Giulio metamorfosi. Bravo. E lo trasformo in un cane. In uno scimmio. No. In un cane. In un gorilla gigante. Perché? Vabbè. Sì, ci sta. O in un tirannosauro, aspetta. Beh, non è il bonus dell'arrampicata, così. Tra l'altro, Giulio... Giulio fa un botto di danno il gorilla gigante, eh? Il gorilla gigante può tirare... Una marea di Può tirare anche i sassi e fare parecchi danni con quelli, e qui ce n'è un botto. Katta, non puoi dire di no. Sì, è pieno. Sì, sono sulla radice, come fa a prendere? Sono su una radice, che cazzo faccio? Vabbè, se capita che scendi, era per ricordarti. E poi finisco il mio movimento, possibilmente nascondendomi, cioè buttandomi là dietro i muretti, lontano dalla casa. In mezzo ai tentacoli? No, l'altro muretto. Con la destra, in alto. Hai sei quadretti di movimento per arrivare, arrivi, ne usi tre per arrivare da Giulio e poi arriveresti qua. Vabbè, detto, questo va, senza bene lì, va, bene. Va bene lì. Questa Giulio, puoi fare un tiro su, Giulio può fare un tiro sulla volontà, se non vuole trasformarsi. Quindi sono una giant ape ora? Sì, è quello con 157 HP tipo. Sì. Ok, spaventa passeri contro Garrosh, che vai, cerca di non essere... Però Giulio ha detto anche le capacità mentali della scimmia. E quindi non può più essere spaventato così da un... Da una, da una, non può essere spaventato, una scimmia non può essere spaventata da un albero. L'intelligenza e quelle altre cose dovrebbero rimanerle mie. Sì, sì. Controlla. Ah, mi sa che con metamorfosi no. Ma quindi sono proprio un gorilla. Ok. Tenti di lanciare cacca ai miei alleati. Beh, comunque quando Sceo era diventato una scimmia non ci eravamo posti il problema. Chissà perché. Beh, le statistiche sono più o meno equivalenti. Prego, continui pure. Sceo, appena è diventato una scimmia, ha esclamato: non sono più un essere stupido come prima. Tutto ora. Esatto. E fa, oh, no, si trasforma in scimmia e fa: eureka! Darci lo spaventa passare, ti guarda in cagnesco, fai un tiro salvezza sulla volontà, sulla saggezza. Buona, capta, fammi andare a letto. Ah, perché è finito dentro? No, cos'è volontà? Lo spaventa passari lo guarda in cagnesco. Ho fatto 9 di dado, però sulla ho più 6, 15. Quindi passato. Ok, questi erano gli spaventa passari. Garrosh. Lo continuo a smazzolare. Ah, tiro salvezza sulla... Ho vantaggio, perché ho senso del pericolo. Hai tiri di salvezza sulla destrezza per trappole o qualunque cosa io possa vedere. Adesso sono un scimmione gigante che mantiene solo la personalità e l'allineamento di... La scimmia malvagia. Ammazzare tutti, scappate! È la scimmia della stanza di Chris, dei Griffin, praticamente. Esatto. Io lascio il mio PG però gigante. Okay. Però con questa volontà l'obiettivo, Giulio, da sì, è nasconderti e non farti beccare per non perdere la concentrazione, perché la concentrazione come fece quando combattavamo i mongrel con me. Non è che ad esempio fog cloud o cose così che ti puoi nascondere, no. Giulio ti sta dando il suo personaggio da giocare, potresti impegnarti un po' a fare domande adesso? Sì, no, hai ragione, è una domanda stupida. C'ho un altro metamorfosi, okay. Che serve se finisce, cioè se perdi tutti gli HP del tuo. Va bene, a me. Bella rega. Ciao Arci. Buonanotte. Ciao. Vabbè, ci sentiamo. Ciao. Allora, era il mio turno, io ho fatto 15 alla destra. Dai. 17, te l'ha detto prima. Cioè. Dai. Quindi, ma non mi dà... Sono lontano, non sono abbastanza vicino. Quanto è lontano? Non così tanto. Sì, ma è 10 piedi il mio. Guarda la mappa. Dobbiamo essere molto vicini. Guarda la mappa. Ah, 10 piedi. Sono almeno 20 o 30 quelli tra me e te, mi sa. Sì. Cioè, ho guardato anch'io. Allora, niente, quanti danni subisco? 11 danni dimezzati. Contundenti, quindi sì, in teoria non dice, sono danni contundenti, tu di mezzi danni contundenti, io e sì, sei intranciato dai tentacoli. Se vuoi disintranciarti, devi superare una prova di forza di destrezza. Ok, ma io quindi non posso attaccare, non posso fare niente. Come no, hai lo spaventapassere di fronte a te. Io posso attaccarlo, tanto non ho intenzione di muovermi, quindi intanto lo attacco. Il primo attacco è un 18 più 7, 25, e sono, fanculo, 7 danni. Ok. secondo attacco 13 più 8 21 e sono minchia che schifo 10 danni schifo. Ah, è molto ferito ma è ancora in piedi. Ah, ok, questo era Garrosh. Ora sta a la strega vedete che riappare svolazzando dalle nubi e vede lo scimmione classico, esatto, e dice: giù le mani dalla mia Giulio Bosi, dalla mia graziosissima capata. Screanzato, dice graziosissima. Dice proprio graziosissima. È tipo Shrek che Ciucchino gli dice: ma che schifo, chi vivrebbe in questo posto? Ma quello è caso mio. Le mie sorelle mi avevano avvisato di questi arrampicatori di finestre. Ok, direi che 21 al colpire. Sì, sì, ho 12. Ma quanto si diverte, Kat? Sì. Direi che 2000, sì, potrebbe già stare, forse un poco. Lancia due Firebolt il country. Uh-huh. Sono stato fortunato perché ho tirato 2 e quindi ho fatto 30 a colpire, vai. Più o meno sta succedendo. Che fortuna, che fortuna non aver fatto 1. 5 danni. In totale? Sì, sì. Uno e poco. Ah, sì, no. È vero, cazzo, non posso fare uno se tiro 2 di 20, giusto? Insomma. E poi ritorna a svolazzare in mezzo alle nubi. E questa era lei. Sfortuna. Ma quindi non è entrata nella, fare il tiro salvezza. Nella capanna? No, sta svolazzando in cerchio, uscendo ed entrando dalla nebbia. 8. Sì, perché sei ancora dentro. Hai fatto 8. No, 8 quindi, non va bene, Marco, cosa stai facendo? No. Sono 3 di 6 danni contro 20. 5. Non sta uscendo, Marco, è tipo lì al bordo e non riesce a uscire. Esatto. No, Marco, devi fare le palle di fuoco, cosa stai lì dentro? Quanti danni ho preso? 5. Sei intralciato dai tentacoli, quindi per liberarti devi fare una prova di forza o di destrezza, se vuoi liberarti. Ok, e non vedo la casa dove sono. È un muro di fronte a te. Quindi è ancora il mio turno, posso fare la prova di destrezza? Esatto. È un tiro sulla destrezza proprio. È un tiro salvezza. Un tiro salvezza. Cioè, no, anzi, scusa, no, sarebbe una prova, quindi una sei... Prova di acrobatic. O hai acrobatics o athletics, li puoi usare. 22. Passato. Quindi puoi muoverti. Vai, esci da lì. Vai quindi verso sinistra. 2. 4, 5, mi 6. Muovo a destra, entro lì dentro. Esatto, perfetto. Ok, questo era... mi metto a dormire. Sfortuna, Vardistram. Diventa una roccia. Niente, proviamo ad andare dall'altro lato. Devo per forza saltare, non c'è un pertugio. Sì, ma non è nulla di impossibile. È un animal handling, però, se devo fare, o sbaglio. Prova di destrezza. O quello che ti è più congeniale, dipende come... Quasi nulla in realtà di queste. L'unica che sarebbe utile per me è l'Athletics, ma per il mio personaggio, non dell'Alce. Puoi metterti l'Alce in spalla? No, se l'Alce può fare un Athletics, probabilmente avrebbe un più 3. Non può usare... cioè, è molto alto, non può tipo saltare, non può usare parte del movimento per saltarlo. Sì, esatto. Gli volevo chiedere una prova... molto facile. Cos'è? Per riuscire a farlo. Posso fare un athletics, sì, dell'Alce, però immagino. E puoi farlo, ma gli puoi dare un bonus pari alla tua. Ah. Lo guidi tu. Allora, vediamo. Ho 7, però più 8, 15. Vai, salto. Perché ricordatevi che l'athletics è il mio top. Va bene, e posso andare vicino e poi attaccare, no? usando la carica dell'alce. No, perché non ho usato l'alce come separata, ma probabilmente non avevo 20 piedi per caricare, quindi poco male. No, sì, vabbè, al massimo tu basta puoi volta che salti prendi la rincorsa, tanto di movimento. Lo so, ma devo, perché l'alce carichi, devo aspettare il suo turno in teoria, quindi non so se conviene per la compagnia. Perché adesso tocca, perché l'alce ha a tre, quindi perché adesso tocca a te. Sì. Cioè in realtà in mezzo, esatto. Vabbè, dai, faccio io, dai. Cioè non lo so, perché in mezzo che ci sono gli spaventapasseri? Perché in mezzo c'è tutti, cioè Atanas. La casa è prima di Arci, giusto? Ma Vez non no, vai, ritardare. Dai, va a due attacco, dai, chi se ne frega della carica. Aspetta, dell'alce. Non puoi ritardare al turno dell'alce. Sì, ma l'alce ha fatto tre, faccio smazzolare Giulio di nuovo, cioè basta, dai, vado io. Ho capito. Anche adesso Giulio paradossalmente a posto. Sì, in effetti. Giulio tipo 140. In realtà il rischio è che insegua Arci. E vabbè, dai, l'attacco, chi se ne frega, dai, faccio i miei attacchi. Dai. Attacco. Allora, con uno faccio 14 e con l'altro manca. Con l'uno, con 14 manca. No, scusa, e... ho sbagliato, scusa. È 8 più 8, 16. 16. Un altro invece è 14 di dado ed è 22. Quindi 16 e 22 sono. 16 e 22. Quindi come prima quando fai pari colpisci. Esatto. Quindi mi stai dicendo... Sto dicendo di tirare un dado percentuale. Cosa? Se è pari la colpisco? Sì, sì, no, però lo tiri comunque. Vinco. Solo per 38. Ok. Febbre? Aia, Covid. Allora... Direi che è arrivato il momento. Bisogna tirare giù la casa, è il nostro obiettivo, vero? Boh. Beh, sì. Beh, dipende. Sì, un paladino potrebbe pensare a salvare la gente che c'è dentro o tirare. Ricordati che sentiamo i corvi all'interno. Va bene, nel senso, però bisogna sconfiggerla. Tu fai quello che vuoi, era. Sì, sì, tu fai quello che vuoi, ti ricordo solo quello che sentiamo. Non so sì, se però questa ci attacca sostanzialmente. E vabbè, non è che esplode al massimo... No. Cioè, credo, cioè, almeno la mia idea. Va bene, ascolta, non voglio far perdere tempo. Tiro, faccio il coso, uso uno dei miei per avere il Divine Smite, esatto. Così faccio due... Cosa? Puoi usarlo due volte? Sì, lo faccio in effetti, così vediamo come va. Arrivo, Allora. Ti devo dividere però i dadi, vero? I danni? Sì. È d'argento lo spadone, ma non cambia, vero? No, cambia, no. Allora. No, ma scusa, non ha resistenza. Quindi posso tirare insieme? Tira tutto. Allora, primo attacco, non è male. 12, 17, 24, 29 danni. Ok. E il secondo, questi due qui li ritiriamo. Vabbè, uno è tornato un 1, ma va bene. 5, 10, 18, 23. Ok. Basta. Muore? Hai detto muore? No. Anche a me pareva, ma sembrava troppo bello. Questo era Barnstein. Atanas, tu sei uno scimmione. Esatto. Allora, il gorilla in diretta inizia a battersi i pugni sul petto, okay, e a urlare. E basta, passa. No. Lancia un po' di cacca addosso. Però è una cacca che fa 7 di 6 danni. Non tocca la spaventapasseri prima. No. Guarda, no, Marco. Spaventapasseri dopo Arci. E cosa fa la Giant Ape? Sono gli ultimi. Salta dove c'è lo spaventapasseri. Ok. Può entrare, posso sfondare una finestra e entrare in casa, tipo. Non so se passi da una finestra in questo momento. Per questo lo sfondo. Puoi sfondare, sì, sì. Farmi una prova di atletica. Certo. in Athletics. Sangue, piume che escono da tutte le parti. 24. Sfondi la parete ed entri trionfante. Schiacci un paio di corvi e sei maledetto. Figo, tipo il pavimento tappezzato di cordi inchiodati al terreno. Per forza. No, e poi non corvi... adesso purtroppo hai sbloccato la descrizione dell'interno della capanna. No. e quindi saluta un altro partecipante. Allora ci vediamo alla prossima. Ciao. Aspetta che Bezzi si sta sbrodolando. Ciao sbrodolino. Cosa sta facendo Bezzi? Ciao. Bezzi ti saluta Laz. Ah, va bene. Ciao Laz. Posso colpire lo spaventapasseri? Cosa tipo 3 secondi perché ha usato attacco per sfondare ha ucciso anche Laz. No, Giulio ha sfondato una finestra e quindi ha sbloccato la descrizione dell'interno. Allora, è per quello che Laz è andato via. Scusate ragazzi, scusate di fianco all'ingresso ci sono due gabbie di ferro. Mm-hmm. Che pendolano come ornamenti e degli stormi di corvi sono intrappolati all'interno. Posso fare notare una cosa? Sì. Che io sono uno scimmione incazzato che è appena entrato, non so quanto mi soffermo sui dettagli. Infatti, vabbè, era perché era l'unico modo. Bel tentativo, Giulio. No, comunque era per detto dare... vinto Giulio, mi dispiace. No, allora, la casa, come vedete, è un quadrato di 15 piedi ed è pieno di vecchia robaccia e spazzatura, però ci sono anche metà è occupata da una scimmia. Metà bene. Esatto. Vedete appunto i classici scaffali da strega con tutte le cose dentro, gli ingredienti, le ali di pipistrello, le code di ramarro, le scaglie di pangolino, con le malattie un tavolo, un forziere molto grande e rinforzato e con delle bande di ottone. Noti una vasca di ferro incrostata di sangue e al mezzo della stanza c'è una piccola culla all'interno della quale c'è un angelico bambino che sta dormendo. Sono uno scimmione gigante che ha mantenuto la sua personalità e il suo allineamento. Cioè, voi vi rendete conto? Cioè, Giulio vive per questi momenti. Praticamente il giocatore Giulio vive per questi momenti. Cioè, che è solo lì. Cioè, può fare quello che vuole. Tutto il mobilio è interrato. Ecco, però hai fatto forse l'unica cosa è il fatto di non avere un pubblico che gli toglie un po' di gusto. Sì. Ho una domanda seria. Prendo un allineamento da scimmione o è l'allineamento suo? Tuo, no. Purtroppo. Cazzo, peggio, io sono uno scimmione, del mio personaggio rimane solo la personalità e l'allineamento. Quindi quello che proprio non doveva... Io sono un scimmione caotico, malvagio, psicopatico, assassino. Vabbè, cioè, guardiamo il lato scimmione, vedono che da sotto la culla, attraverso le crepe del pavimento, provengono una flebile luce verde. La pietra. Sì. Ma quello scimmione... Quindi prendo il bambino, lo scaraventa via per prendere la gemma. È quello che devi fare. No, è tipo, prendo il bambino... Basta attraverso il bambino. È tipo, questa luce verde mi dà fastidio, prendo il bambino per incastonarlo nella crepa e bloccare la luce. Va bene, e questo era Atanas, perché sì, hai fatto la tua azione per sfondare la parete. Boh, se mi rimane qualcosa mi sposto esattamente attaccato allo spaventapasseri, ma ci sono già, quindi... Sì, tocca la capanna. Ho visto che occupo praticamente tutto l'interno della casa. La capanna è molto contrariata di questa cosa e quindi praticamente è come se si percuotesse da sola. È così confusa a colpirsi da sola? Cercando di colpire te che sei all'interno. Oh, figo. E quindi ti dirige contro i suoi attacchi. Ma sono dentro, si autocolpisce. Distrugge le pareti. Certo, cerca di passare dal buco che hai fatto tu per entrare. Uccide i corvi e si maledice. Allora. Cioè tu vedi tipo la radice che fa, poi fa. Il primo attacco manca perché effettivamente non riesce a centrare il buco. Solo però lui può mancare. Però lo amplia, quindi secondo... Poi prende meglio la mira e i due doppi dopo ti colpiscono. Quanto ha la scimmia di classe armatura? 12. Sì, quindi allora si è fatto un modo per dire che ha fatto uno. Sì. Perché ho perso un D10? Fatto uno, catta. Il primo attacco, sì, è quello che ha mancato. Allora, qui ci sono... Non credo che fosse previsto nel manuale del master, ricontrollo. Allora, il secondo sono 40 danni. Ok, adesso va meglio. Sta recuperando. Sì. E il terzo? Un po' meno. Il primo che ha mancato ed è un fumble, non c'è possibilità che si colpisca. 32. Va bene, controllerò se si è colpito o no. Dado percentuale. Dado percentuale. Perché ha fatto un fumble, solo per quello. Sì, controllo subito. Vai, tira Giulio. Tanto tira un dado e dice no, non è... Fatelo tirare. È fatta dei danni. Sì. Sì. E questi non li dimezza. No. No, lei non mi dimezza nulla, non prende tutto. Non ha resistenza. Era solo gli spaventa passa. Esatto. Ok, questa era la capanna. Quanti danni si è fatta? Tanti. Come fai a sapere? Ma lo vedo. Patka corre via. Si nasconde in alto a destra, tipo. Corre tra i tentacoli. Entro dentro la cosa. Esatto, senso. Bravo. Non dove ci sono i tentacoli, ovviamente. Lì sotto quel cumulo di pietre mi sembra un ottimo posto. Sì, poi magari lancia... Può tirare per nascondersi? Lancia un cantrip. Lancia un cantrip contro il coso, spaventapasse. Ma perché lui non può fare incantesimi mentre ha l'altro attivo? Solo quelli senza concentrazione. No, può fare, no. Visto che non so che incantesimi abbia. Non lo sa neanche lui. No, ma a parte che non ha incantesimi di danno, di solito usa il boltino, quindi il boltino. Ma non li segna mica lui. No, ce l'ha in teoria uno forte, ma penso che sia concentrazione. Boltino, niente, non becco perché faccio 4 e non so quanto ha più, ma mi sa che anche non... Anche gli animali sono, vero, sono concentrazione. Sì. Sono abbastanza sicuro di sì. E questo era Patka. Spaventapassera. Perché 11 non lo becca, vero, spaventapassera? Ah no, 11... pensavo tirarsi alla casa. No, sì, lo becchi. Hai gittata di abbastanza, sì, 60. Allora, quant'è che fa dei D8 lui? Dei 2D8. Sono abbastanza piccoli. Ma il druido in teoria non dovrebbe prepararsi lì? 11. No. Li sa tutti? 11 danni, sì. Di fuoco, tra l'altro. Sì. Quindi se li becca tutti. Ok. Molto ferito. Ma sta lui adesso che ha uno scimmione di fianco a sé, quindi proverà a spaventarlo col suo sguardo spaventoso. Cosa divertente che ci riuscirà. Esatto. Tirami sui danni. Ha un più uno ancora. 14. Oh, passato. Invece no. Dai, Grande, Giulio. È tipo la scena abbiamo un Hulk. Esatto. Comunque il druido è fortissimo. Sì, cioè, della roba. Cioè, ha degli incantesimi di quarto livello. Cioè. In teoria dovrebbe averceli anche qui. No, sì, di quarto. Ne ha due di qua. Io faccio fatica a averne 10 secondi. Vabbè, tu non sei un fighter, non sei solo un caster. Vuoi mettere chi è più fighter tra me e Arci? Spiacevole. È un fighter diverso. Già, di quelli che vincono. Più tre. Ok. Ti manca di nuovo Garrosh e tocca a te. Ok. Gli do l'ultimo. Ah, prima tiro la destrezza, giusto? La destrezza. Dai, esci da quella palude. Entrambi i dadi hanno fatto due. Cioè, sono dovuto tornare io. Ok. Forse non dovevi neanche tirare, beccavi i danni e basta. Sì. Perché? Perché inizia il tuo turno nel tentato. Ce l'ha Fog Cloud, Giulio, se vuoi sapere. Ah, ok. Sì, ma... metamorfosi. Cioè, 9 danni. Un sacco di roba, riga. Quanti? 9. Mi fa impressione, Arci. Cioè, stai segnando, Giulio. Sì. Che è di mezzo questo. Sì. Puoi andare, Garrosh. Cioè, sicuramente allora, è quello che voglio io. Perché sto tirando una merda. Ma c'è anche Thunder Wave, Arci. 24, quindi colpisce, quindi 8 più 6, sono 5 più 6, 11, quindi di mezzo lì. Morto. Oh, grazie a Dio. E solo che ho finito il mio turno, in teoria avrei il movimento, non so se la prova di forza per muovermi la posso fare. No, perché è attaccato. No, però tu hai detto, cioè, io mi devo muovere. Sì, per farlo devi, vale con... devi superare una prova. Perché sei... è un'azione, non, cioè, non posso provare un'acrobazia legata al movimento. Sei ristretto dai tentacoli e quindi no, per liberarti devi superare una prova. Ma io non posso integrarla al movimento, tipo un'acrobazia. No, è una prova un'azione. Okay, la strega. Vedete che ritorna a sorvolare la capanna, molto contrariata dal fatto che c'è una parete della sua bellissima casa che è stata sfondata. Quindi urla via da casa mia! Quindi è tornata la strega a sorvolare la casa, molto arrabbiata perché vede, c'è uno scimmione gigantesco che gli ha sfondato una parete. E quindi vedete i tentacoli che scompaiono dalla casa. E improvvisamente l'interno della capanna si riempie di un gas giallo-verde e tossico da respirare. E tipo così. La visibilità è pesante, esatto. L'area è pesantemente oscurata. Chi ci sta, chi sta il turno o ci entra dentro deve fare un tiro a salvezza sulla costituzione. Ma dentro o anche fuori? Tutti, dentro la capanna, la capanna si riempie di gas. Cioè sterminano tutti quelli che stanno dentro. Sarebbe anche il bambino. Giulio, ti ha tolto la possibilità di uccidere il bambino. Tutto il divertimento, sono molto arrabbiato. Anche lo spaventapasse, tipo. Non credo. L'area è questa, quindi becca tutti quelli che sono in questa zona. Sono Giulio, dei nostri. Di fatto chi è all'interno della... Ma quando sarà a me? Ma quando sarà a te? E poi ritorna a svolazzare nella nebbia. E questa era la strega. Sfortuna. I tentacoli sono spariti. Come faccio a toglierli? Ma quindi è tipo la casa è vabbè, chi se ne frega. Ah no, i tentacoli, no scusa, non ho capito un cazzo. Non so come toglierli, tolti. Sfortuna. Mi sa che sei, no sei mutato, non sento niente. Sì sì, sono dentro la casa. Mi affaccio... Eravamo tutti zitti. Mi affaccio alla porta. Mi affaccio alla finestra. Giulio? No, non mi muovo lì così Arci davanti. Anche di Spell Magic, che non è concentrazione. All'entrata della casetta, della casupola, dentro cui ieri. La casupola dentro cui ieri? Sì, sì, vado da questa. Vado dall'entrata lì in alto a sinistra. Dove ti avevo messo, no? Qua. No, quella qui tra le due muri, colina. No, proprio rimane la stanza. Della stanza, una stanza dove è. Qui, quindi? Ah no, qui. Ah, sì, E da lì vedo il cielo. Sì. E niente, preparo un Eldritch Blast se rivedo la strega che si affaccia. Perfetto. Però puoi sparare una palla di fuoco. Contro cosa? Per fargli male. A chi? Alla strega alla di casa. Merda. Ah, la strega non la vediamo alla casa. Vabbè, ma lui può sparare una palla di fuoco quando la vede. Ma chi sta adesso? La messa. Vai. Sì, ok, preparo una palla di fuoco, non preparo... A posto, rega, ho fatto 1 e 3, quindi... A meno che non abbia 11... Aspetta. No, più di 11. Niente. La palla di fuoco incendia le cose, quindi se gli distruggi la cosa, lei cade giù. Vabbè. Comunque Arce ha Dispel Magic. Vabbè, e cosa? Any spell of third or lower ends. E poi lo può fare anche di quarto e anche i quarti ends. E se è di quarto e lo fa da terzo, cioè nel senso la spazza via sta strega forse. Hai voluto farla contro il cloud. Instantaneous. Any. Avrei dovuto farlo subito quando la spazza via, tipo gli dice cosa ci fai lassù, poi tipo non credo funzioni così. Eh sì, è un cazzo di druido, cioè, ha della roba da paura, cioè. Atanas, cioè, dentro adesso lui ha concentrazione per fare sta roba, ma c'ha tipo un muro di fuoco che non so quanti cazzo di danni fa, cioè, se vuole tipo tra l'inferno sulla terra. Cioè, della roba pazzesca, Arci. Costituzione. I danni da fuoco erano utili. Wall of Fire. Faccia via chiunque. 20. Di mezzo. Quindi sono... È che se lo faceva all'inizio il muro di fuoco lo metteva tra noi e la casa. C'ha di tutto. Serve le magie. Non è tipo... Arci. Quanti danni mi fa? 14. Ah, cazzo, 14 di mezzo. Fa quello che vuole. Sì. E ora... Può scegliere quelle che vuole, ma deve prepararle a riposo. Ah, allora, allora dovrebbe dovuto darci una lista di incantesimi, però. Ma non l'ha mai fatta lui, secondo me. Non credo, infatti. No, ce n'ha una blanda. Una blanda. Io inizio a sfondare la casa. Beh, un Dispel Magic, dai, potrebbe averlo. Allora, ok, va bene. Inizia a sfondare la casa. Sei in un'area altamente oscurata, quindi hai. Colpisce a caso quelle le cose che hai. Pavimento, cioè inizio a sfondare il pavimento. Cioè, voglio dire, lo sei un corvo. Sì, va bene. Allora. Ci sono i corvi, eh. I corvi ormai saranno anche morti. Tiro per colpire. Prova di forza. Prova di forza? Sì. Athletics? O forza pura? Sì, sì, puoi usare Athletics. Cioè, in realtà sei una scimmia. C'è la Athletics, la scimmia. Sì. Sì. Ah, beh, vai. 14. Ok, divelgere, non so come si dice, divelgi, grazie, le assi del pavimento. La luce verde si fa più luminosa, ma veramente la nebbia ti impedisce di vedere la fonte. Però sì, c'è una cosa che brilla lì sotto alle assi che hai. E nel frattempo la casa subisce danni? No, però ha sfondato il pavimento. Detto questo era Atanas. C'è la capanna. Che... Beh, smetti di mangiare che mi fai venire fame. Allora, che si concentra sul suo occupante, ma fa piuttosto fatica a colpirlo in quanto è sia all'interno, sì, in quanto avendo cominciato a scavare, è un po' più difficile da riuscire ad assestare un colpo. Quindi questo è un colpo ti manca e gli altri due ti colpiscono. Io non ho orari, però ovviamente se chi lavora a una certa deve chiudere, ditelo. Vigliano sta merda. No, beh, non sta merda. Vediamo, proviamo a vedere. No, so che le tue carte ha lavorato per quello. Il primo sono 31 danni. Sì, ma facciamo smart working. Okay. Il secondo sono... vabbè. 25. Devo più 25. Svegliarmi le 6. Ah no, quello sicuro. Ti manca un po' porto maggiore. Ok, sta pack. Sì, moltissimo. Sta pack. Una domanda, scusate, Katta, però posso usarlo questa volta l'alce tipo per aiutarmi? Sì, esatto. Adesso sì. Non devo dirti solo questo. Giusto? Sì. Sì. Va bene. Cos'hai detto Atas? Il coso, lo spaventapasseri è occultato perché è dentro la cloud. È dentro cloud, sì. Quindi sparerà contro la casa e basta. Ok. Io ha fatto 14 di dado, quindi 17 dovrebbe aver fatto tipo 20 o 21. Capisci. Dieci danni. Questo era fatto. Ok, spaventapasseri. Ma allora, perché non gli fai di spell magic, Giulio? Ok, mi sa che mi devo avvicinare. 120 piedi. Istantaneo, 120 così, piedi, un'azione. Perché così anche lo spaventapasseri si becca la cloud. È immune al poison. Non lo so. Cioè, elimina uno dei due incantesimi, almeno. Ce n'è uno solo, la cloud. Quello dentro non è un incantesimo? Esatto. La cloud key. No, lui immagino dica quello che fa animare la... È la pietra, non credo che Dispel Magic funzioni contro la pietra. No, scusa, non ho capito. Lei ha la nebbia, l'ha spostata lì? No. Lei ha finito i tentacoli e ha buttato sta nebbia dentro. Però non c'è anche una nebbia da cui lei appare e scompare? Quella normale. Quella è la parola. Quella che c'è dall'inizio. Mio cotto brugo! Vabbè. C'è qualcuno che vorrebbe andare a letto. Adesso finiamo questo turno. Con quindi lo spaventapasseri che nel buio proverà a attaccare lo scimmione enorme colpendo a caso nello spirito. Lo trova, quindi farà due attacchi. Vabbè, è enorme. In realtà può tornarci quasi a nostro vantaggio questo, potrebbe potenzialmente, questo incantesimo. Perché dici? Beh, se anche lui non riesce a prenderlo. No, forse però non è per l'incantesimo, in effetti, è per il fatto che è dentro. 12 danni. Con le sue artigli, e anche se ti colpisce con gli artigli devi fare un tiro salvezza sulla saggezza o essere spaventato. Chi è che gli artigli lo spaventapasseri? Tipico di spaventapasseri. Faccio 11. Quindi pari, quindi passo. Sì, sono di nuovo. Maledizione a te, sì. Sono di nuovo io. Ah, hai finito i punti ferita? Fatto mi hanno attaccato una marea di volte. E ti deve vedere Arci per rifartelo? Mi deve toccare. Ah, Ok. Allora quindi... fagli fare il muro di fuoco. Non l'avrà mai scelto. Garrosh. Non ho scelto niente, quindi scegliamo noi. No, prima so se scheda sia nera, non scrive. Ah no, non ci sono più i tentacoli, per cui... Car- vai nera, carico. Sì, esatto. Dai. Cioè, sono già in carico. Primo attacco. È un 15. Manca. Ma dai. Come manca? Ah, era 16, vero? Figa, che sfiga. Attacco extra. 18. Ah, hey. Quindi questo più 11 sono 16 danni e ultimo attacco 24, quindi colpisce e sono 10 danni. Sto tirando male. Questo era Garrosh. Allora qua mi spazzolare anche a me. Ah, posso gratuitamente, sono qui, picchiami, fammi del male. Ah sì, puoi cercare di attirare la sua attenzione. Esatto. Ma non attiri solo la sua. La strega ricompare dalle nubi. Io parlavo con la casa. Hai preparato un'azione. Corretto. Una palla di fuoco. Ed è proprio 36 fuoco. Pinami. Allora. 15 tiro salvezza. 15 tiro salvezza. No. Ma cosa sei? Hai fatto la palla? Oh, che bello. Noi vediamo i pochi d'artificio. Tiro salvezza. Va bene. Quindi, si becca la palla in pieno. Fallisce. Fallisce il tiro salvezza. Sulla strega o sulla casa? La strega. Ok, Giulio. Devi fare azione, allora. Devi fare concentrazione di 18 perché è metà dei danni. Tra l'altro, è vero. Buttala giù. Ripeti buttala quanti danni sono? Sono 36 danni fuoco. Ok. 36. Cioè la concentrazione, in che senso? È metà dei danni? Ah, degli incantesimi a concentrazione, se prende troppi dei danni, no, deve sì, tirare. Ma funziona proprio come numero. Cioè la se CD ne prendi come... molti è una CD più alta. Metà dei danni o 10? Metà dei danni, esatto. 10. Ah, quindi sì, 18 adesso. Perde la concentrazione, Cloud Kill si dipana dal... Rock and roll, grande Marco. Vedete, uno stuolo di cadaveri di corvi ovunque, un bambino morto. Esatto. E Giulio che dice, riga, rimettete la nebbia, non sono stato... No, la culla è sparita. Ma io sono lì che vedo, è sparita nel senso è stata vaporizzata oppure... Da uno scimmione rabbioso? Non era mai esistito. Ah, ok. Era un'illusione. Se avessi visto anche il bavaglino del piccolo sarebbe stato divertente. Ma non perché credo. Cosa c'era? Era scritto strada. Era uno scimmione furioso, peccato. Esatto. Vi rende pan per focaccia, quindi... Garrosh, Atanas, no, scusa, Vardistran e l'alce mi tirate un tiro sulla destrezza. Palla di fuoco, salvezza. Sì. Tiro salvezza. Io e l'alce abbiamo il più 3. Ci basterà. E anche la casa. Anche io, cazzo. No, da lì riesce a non beccare la casa. Allora, io direi che io ho fatto 11 e l'alce ha fatto 5. L'alce è morta, però mi dà comunque il vantaggio a colpire in teoria, credo. Se ci arrivo, forse non lo so. 19 si è superato, ce l'ho fatta. Lo scrivo così. Cos'è? Google, sì, c'è il lancio danni, 32 danni. 32 danni, eh? a chi ha fallito. Beh, Lancia è morta, Ward, quindi via gli 11 temporanei, 21, quindi 55, e Garrosh, Garrosh di mezza. Sì, no, poco, cioè no. Di mezzo perché ho... Di sì, mezza però è passato il tiro, sì. 16, quindi... 16, 65, 59. Una metà vita. E ritorna nella nebbia, sfortuna. Fai la stessa cosa? No, perché poi ce la tira a noi. No, faccio... Eldritch Blast contro... A caso. Ma okay. Scusa, non sei distrutto il tuo trabicolo volante? Con la palla di fuoco? È stato danneggiato. Ma preparale Marco. Un'altra, Marco, spazzala via. Esatto, ricolpisci la dopo. Spazzala via porta, dalla terra. 18 e 14. No. Marco. 14 manca. Perché non hai preparato la palla di fuoco? 15 danni. Uccidi là. Ok, poi. Bardistra. Allora, immagino che cadrò e ti rialzo. E mi rialzo, esatto. E in teoria avevo fatto help dell'alce. Che in teoria... Prima. Sì, perché diceva, cioè per il colpire, in teoria, prima del prossimo turno mi dava un vantaggio al primo tiro, però non so se col fatto che è vaporizzato. È ancora aiutato, sì, sì. E vai... Allora, il primo tiro con vantaggio. Porca miseria. 19, va bene. 27 a colpire col primo. Il secondo è non avvantaggiato, ma è comunque un 23. Ragazzi, dedica due parole all'alce. Hai colpito grazie a lei. Sì, è stata grande l'alce in realtà. 10 danni il primo. Mm-hmm. E 9, 5, 4, e 14 il secondo. Ma tanto non è qua che si combatte la battaglia, in realtà. Infatti adesso vediamo. Oh, Atanas. La tua vista... Beh, io adesso mi sono rimpicciolito, non ho più il cervello di uno scimmione gigante. E vedi... E vedo la pietra. Vedi la pietra che è praticamente è in fondo a un groviglio di rovi sotto il pavimento all'interno di, appunto, della pianta. E io vado e prendo la pietra, o okay. Strappare la pietra. Ti vai per prendere la pietra e praticamente i ramoscelli all'interno della pianta si chiude intorno al tuo braccio mentre fai per prenderla come se fosse una gigantesca fauce. E quindi esatto. E fai un tiro sulla destrezza. Ti strappa il braccio. 15, 17, 19. Allora, che cazzo l'ho scritto la CB? Bravo. Vabbè, 19 è un bordello. Dai, passa. Dai, 19, cioè, raga. Non trovo più, te lo diciamo noi, fidati. Preghiamo sì, tutti insieme. 20. Sì. Queste pauce ti morde il braccio, ti infligge 10 danni e fallisce ad ottenere la gemma. Bene, spiace, e questo vuole. Era Bardistra. No, il mio turno si chiude così, scusa. E il tuo turno si chiude così. Mi pare un po' una cazzata, no? Vabbè. Cioè non non è un'interazione con l'oggetto. È che cioè sì, puoi attaccare. Vabbè, attacco, mi faccio strada in mezzo a sti rovi. Diciassette, quindici, ventuno colpiscono. 18. Hai anche l'Action Forge? Sì, però non c'è l'Action Forge. Usiamo. Cata vuole andare a dormire. Usa l'Action Surge. 20. Oh, di dado. Bravo. Questo cazzo di dado non riesco. Ok, 20 di dado e 17 più 8, no, 25. Non solo che devi usare l'Action Surge, ma hai capito? Il master ha agito sui tuoi dadi. Sì, esatto. Ho detto basta, non posso più. Te le faccio tirare un 20 a Giulio. Sono 10, 16, 26 danni. Ah, 25 cos'era? A colpire? No. Sì. Due, ok, un critico. 26 totale, una, anche col critico? Sono 3 di 8 più 10. La casa si accascia a terra, che crolla inanimata sui suoi, sul suo peso. E così. Sì. Sarebbe stato più figo se fossi riuscito a strappargli la pietra. Adesso, quanti danni Becker? Di 20. Di... Fanculo 20. Sì, merda, diciamo. Danni di caduta per Giulio? Nessuno, non è Giulio che cade. Io sono sopra a casa. Appunto, la casa cade. Sei tu che sei sotto, colpo. Esatto. Sei tu che sei sotto. No, sono di fianco. Sono di fianco. Povera. E questa era la 48esima puntata. Però c'è ancora la strega da eliminare. C'è ancora la strega da eliminare. Quindi il prossimo che agirà alla prossima sessione sarà Pat. Pat lancerà il boltino sul... Ma la strega quant'era più o meno di distanza, per sapere? Non lo vedi nella nebbia. No, è quando usciva. Quando usciva la nebbia ha una visibilità di 60 piedi. Quindi... Era entro 60 piedi sulle nostre teste. D'accordo. Andava vinto. D'accordo. Va bene, allora, come ha detto il nostro master Rio Catabriga, questo era il 46esimo episodio della Maledizione di Catta. Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento con le prossime sessioni. Dai, torna in scrivania, Catta. Esatto, Catta, che sessione... abbiamo... Alla prossima sessione di Lex Arcana vedrete la vendetta del Demiurgo. Vi informiamo che il talent show degli LGBT chiamato Talent Quarantena o qualcosa del genere, Quarantalent, scusate, ha avuto 174 picchi da 174 follower. Voi quanti avete avuto di follower live stasera? Jacopo, cosa vuoi, Michi? Tu ci hai seguito? No, ma torna a guardarti l'LGBT. Torna a guardarti l'LGBT Center Gross Career Management. Ho votato Darla Girandola, che è andata in finale, assolutamente. Quindi io sono contentissima. E invece qua Catta ha vinto, non è vero. Comunque, non ascoltate queste malelingue, continuate invece a seguirci. Se non l'avete fatto, seguiteci, anche se non so come potreste farlo se non mi ascoltate, però fatelo comunque. E alle prossime episodi, alle prossime sessioni, nel prossimo episodio vedremo la vendetta del Demiurgo sul master. Allora, non potete fare un applauso a Sceo per questa battuta, ma mi raccomando, esatto, gli ha tirato delle bancate da 40 punti alla volta. Sì, però gli ha anche dato il suggerimento giusto, perché voleva andare a letto, cioè non capiva mai. Dai. Il suggerimento arrivava da una terza, ma in realtà secondo me Catta si è placato. Sarebbe successo al primo che toccava dopo, in realtà che toccava lei dopo. Ma se è spiacione, Giulio. ed era potenzialmente uno spiacione anche per me, Sceo. No, in realtà secondo me Catta ha placato la sua sete di sangue quando è riuscita a uccidere l'Alce. Comunque vabbè, diciamo che è anche una carognata il 20 che ho fatto. Vabbè, quello era previsto così. Non piangiamo sulle alce versate, ma concentriamoci sulle prossime sessioni. Mi raccomando, continuate a seguirci, canali social di RGDR Tycoons & Dragons, podcast di RGDR. E niente, buonanotte e alle prossime sessioni. Ciao. Ciao. Se riuscite a chiudere, ciao. Marco, quindi se chiudo e anche voi, amici del podcast, ciao.